Cosa fanno insieme Giuseppe Cruciani e David Parenzo? Un programma radiofonico canottaggio. Programma telefonico. Programma telefonico. Radiofonico. Cosa ha detto radiofonico? Radiofonico, io ho detto. Lei cosa ha detto? Ah sì, programma radiofonico. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sono in aereo, mi hanno detto di spegnere il cellulare per il decollo per non interferire negli strumenti. Io ascolto la zanzara e col cazzo che lo spengo. Voglio morire ascoltando la zanzara, cazzo. Mamma mia, Cruciani, voi matti, voi matti. Un tempo entravo in macchina, mettevo il bel CD nell'autoradio e ascoltavo Bach, Beethoven, Mozart, Tchaikovsky. Adesso, per colpa della zanzara, ascolto solo Cruciani e Parenzo. Parenzo e Cruciani. Che schifo. Con grande piacere leggo oggi su un quotidiano, caro David, a proposito di immigrazione, a proposito di immigrazione, vitto e alloggio senza lavorare né studiare, è l'assistenzialismo dei centri di accoglienza, l'esatto opposto del modello tedesco. A un certo punto un tizio, un giornalista, chiede a un rifugiato, a un immigrato, a un clandestino, ma no, rifugiato. Sì, no, clandestino, formalmente un clandestino. Ma tu ti prepari da mangiare? No, vedo il cibo solo quando è pronto. Io non cucino. Accoglienza all'italiana, non si fa un cazzo. Ragazzi, il top oggi viene da Bologna però, dove uno chef vegano, non si capisce per quali motivi, il mitico Salvini, che è stato anche qui ospite alla Zanzara, non è Salvini quello della Lega, è Salvini ed è uno chef quello vegano. Quello che fa piangere le carote. È quello che è stato imitato da Crozza, che fa piangere, che dice che la zucca piange. Sì, più o meno, insomma Crozza ha preso ispirazione da quello chef lì. È andato a una mensa dei poveri per preparare un menù, anche qui mistero, no? Mistero assoluto. Beh sì, all'Antoniano. La gente normale fa queste cose. Sì, ma ti pare normale? No, non che lui sia andato, uno va dove vuole. Ma ti pare normale che i preti dell'Antoniano scelgono uno chef vegano per fare il menù ai poveri? Amico questo mio, è singolare. Si può scegliere anche quelli una... hanno fame poi, scusa. Beh, appunto. Ma no, hanno fame, gli dai da mangiare le verdure, mi sembra una cosa. Comunque, perché... E infatti alcuni di questi si sono ribellati. Hanno ragione, detto, fatto benissimo. Scusate, amico mio, noi però adesso usciamo da qua e vogliamo la carne. Vogliamo la carne. Filetto, cose normali. Io ragazzi non vorrei parlarne perché mi sono stufato di parlare di queste cose della Juventus, lo scudetto, meritato, non meritato, ancora c'è gente che rosica di queste cose qui, io non sono juventino, ma è veramente ridicola, l'Italia è ancora ferma a queste stronzate. E allora bisogna però citare per forza il signor Maradona, per carità, tanto di cappello, Maradona, il mito, sentite cosa dice da Dubai, in collegamento da Dubai, non mi ricordo con quale televisione napoletana, e una fregnaccia che non è, come dire, all'altezza del grande campione, no? Cioè, signor Maradona che dice la Juventus ha giocatori fantastici, soprattutto nella federazione gioco calcio. La Juve c'ha dei giocatori fenomenale dentro della Federazione Italiana e dentro dell'arbitraggio italiano. Non è nuovo, Gianni, non è nuovo. Hanno dei giocatori fantastici dentro della federazione. Qualsiasi problema haya in campo, il giocatore della Juve ha ragione. Hai capito? Vabbè, che tu non capisci niente di calcio, però. No, ma capisco semplicemente che un conto è un tifoso, un conto è uno che è esterno alla vice, cioè un tifoso come Maradona, un simbolo del Napoli come Maradona, può dire quello che gli pare, ma è chiaro anche. Può dire anche che oggi c'è un sole, ci sono 40 gradi, invece piove, fa freddo, io ho mal di gola, ma può dire qualunque cosa, quello è un tifoso, ex leader del Napoli, come si dice, l'idolo del Napoli, l'idolo... A proposito, se sono scannati ieri sera a Tiki Taka, dov'ero, a proposito sempre del numero degli scudetti della Juventus, 32 Marchiglia, o 34, Marguga, come si no, chiama? Ma che c'entra quello? Ah, Mughini è un ex giocatore dell'Inter molto forte che si chiama Córdoba, il quale ha scritto un libro, è stato invitato lì. Sì. Allora, signor Mughini, si discuteva di che cosa? Sempre del famoso numero di scudetti, no? 32... 34, quanti sono secondo la Juventus? 34, secondo la federazione e alcune sentenze 32, io per me sono 34, lo dico subito, ma l'ho sempre detto, lo dico da anni, per cui ormai non fa testo. Mughini Córdoba, senti. Il giudice sportivo ha detto che non eravate affatto gli onesti, ma che era prescritto il reato. Lo dice la giustizia e per me conta quello, basta. Appunto, la giustizia ha detto questo, che era prescritto il reato. Lo scudetto ce l'ho a casa, bello, e me lo tengo stretto. Beh, se lei si accontenta di uno scudetto di merda e di cartone, no, adesso, io che ci posso fare? No, adesso, dai, che ci posso fare, voglio mi perdone. Adesso, no, ma lei è un grande campione, Córdoba. Non capisco cosa se ne faccia di quello scudetto. Io... La grande frase di Mughini è già ripetuta alla Zanzara una volta: lo scudetto di merda e di cartone, quello assegnato all'Inter. È inutile dirti, caro Parenzo, nonostante il tuo interismo, che io sottoscrivo questa frase di Mughini. Guarda, al 200%. A Mughini, che ha scritto 200%. Delle grandi cose, dei grandi libri, si può perdonare tutto, quindi anche questa fregnaccia. Ma che fregnaccia? Ma quale fregnaccia? Ha ragione lui. Ripeschiamo dopo anche la frasetta alla Zanzara. Dopo. Però ragazzi, tornando alla politica, adesso sì, il calcio ci interessa, smuove le masse popolari, smuove il nostro stomaco, no? Il nostro stomaco, la nostra pelle, i nostri umori quotidiani, almeno i miei, quelli di Parenzo un po' meno. E c'è una vicenda incredibile che è stata raccontata qualche giorno fa da Report, io ancora non ci volevo credere, ma esiste veramente una legge che rende impignorabili gli stipendi dei deputati e dei senatori. Cioè, se a te ti pignorano per qualsiasi motivo, no? 5-10 mila euro ti vanno a prendere nello stipendio, no, 5-10 mila euro, quello che è, giusto? Beh, sì, una sentenza, una cosa, certo, signor Parenza, signor certo. Cruciano, arrivano subito i carabinieri, la finanza, l'esercito, quello che è. Per i deputati e per i senatori questa cosa non si può fare, perché esiste una legge degli anni 60. Ma ricapitoliamo tutto, dove nasce questa vicenda? Gabanelli. Qualche anno fa ci aveva fatto una causa per diffamazione, l'anno scorso si è chiusa e il condannato è stato lui, perché il giudice ha ritenuto che la lite fosse temeraria ed è stato condannato a pagare, oltre alle spese, anche a risarcire a noi un danno per 5.000 euro. Bene, la settimana scorsa ci scrive il nostro avvocato che non li paga e purtroppo da un controllo effettuato presso la Banca Nazionale del Lavoro del Senato risulta che Formigoni non è titolare di conto corrente, per cui apparentemente non ha fondi aggredibili. Firmato avvocato Caterina Malavenda. Si vede che lo stipendio da parlamentare lo incassa in contanti. La vicenda è abbastanza incredibile, diciamo la verità, ma al di là del fatto che Formigoni ha o no dei conti correnti, non si sa bene dove riceve lo stipendio da senatore, probabilmente lo riceve qualcuno su un conto. Qualcuno lo saprà. No, sì, qualcuno lo saprà, sicuro. Non è che gli possono dare in contanti, non credo che se li fa dare in contanti i soldi, no? Cioè, ma non penso che sia possibile neanche. Beh, non lo so, può darsi pure di sì, tutto si può fare là. Al Senato e alla Camera, tutto quello che non è permesso ai cittadini, la maggior parte delle cose che non sono permesse ai cittadini, lì invece è permesso. Adesso non è solo demagogia, ma questa cosa è incredibile. Sì, è perché vero, esiste una legge degli anni 60 che impedisce il pignoramento dello stipendio. Sentite. Non si può pignorare lo stipendio a Formigoni perché c'è un divieto espressamente sancito da una legge che risale al 1965. Questa legge, all'articolo 5, stabilisce che le indennità e le diarie dei parlamentari non possono essere pignorate. La ragione è quella di evitare che dei terzi creditori pignorino queste somme, privando i parlamentari dei mezzi di sussistenza e quindi in qualche modo condizionandone la libertà e l'autonomia. Una roba incredibile, dai, esistono ancora queste robe qui? Cioè, se uno commette delle nefandezze e viene multato, viene tassato, viene, insomma, bisogna pignorare qualcosa, lo stipendio nostro può essere pignorato, lo stipendio dei deputati e dei senatori no. Una roba incredibile, dai. A proposito di senatori, vogliamo sentire quello che è successo al Senato con la moglie neo-renziana del renziano anch'esso, senatore Bondi, ex fedelissimo di Berlusconi? Senti questo strafalcione, senti questo strafalcione. Io ero nel 2012, ero alla Camera, quindi ho intervenuto su me stessa, sì. Quindi giustamente. Talvolta si fa. Ecco. Cioè, risentiamo ho un attimo. Intervenuto, ho no, intervenuto. No, sentiamo ancora, sì, per chi non se ne fosse accorto, com'è che ha detto la Repetti? Io ero nel 2012, ero alla Camera, quindi ho intervenuto su me stessa. Ho intervenuto su me stessa. Per carità, noi facciamo errori, Noi facciamo errori. In 2 ore e mezza di diretta, però tu te sei preparata, vai, dai, su. Poi dov'era questo qua? La Camera oppure un talk show? Che cazzo è? No, questo qui era della nostra amica Panella. Tagadà, trasmissione. Altro che il traffico, qua ci serve sapere del traffico di stupefacenti, che non si trova più l'erba buena. L'erba buena. La Zanzara. Scusate, toglietemi tutto, ma non la zanzara. Andiamo a Pordenone, Lucia. Pordenone è la città in cui è candidato il signor Polegato, il nostro amico Polegato, che ieri ha detto le peggio cose su Vendola. Ma risentiremo tutto. Lucia, vai. Ma stai pur sicuro che io a quello là non lo voterò mai, Perché? No, io i fascisti li lascio da una parte. Brava. Ecco. Lucia, io dimmi. Sono con Parenzo. Meno male. Io gli ho telefonato da ieri che sono al telefono. Sì. Ma quello lì, quel musulmano lì, sì, per me è integralista. Beh, quello non c'è dubbio, sì, eh. Sembra un po' sì. Ma mi hai fatto sentire tutta la predica della preghiera, che a me non mi interessa. Beh, niente. La predica, la preghiera in diretta dell'Islam, ieri, sì, qui, ma stupendo. Ma dato fastidio, perché lui dice che i musulmani non sono frosci, ma sono più frosci loro. Beh, che in Italia. Beh, effettivamente l'omosessualità tra... Perché in Arabia Saudita venivano al mio paese a farsi inculare e pagavano i soldi. Signora mia, però lei per essere inculati. No, però aspetta, signora, aspetta. Precisiamo genere... le cose. Allora, signora Lucia, mi sembra di ricordare che tempo fa intervenne una Lucia da Pordenone. Sempre quella. Trattasi di prostituta, se non sbaglio, sì, no? Sì, giusto, sì, amica sì, mia. Dunque, di che nazionalità sei, Lucia? Io sono della Somalia. Sei della Somalia. Metà somala e metà italiana, ai tempi di Mussolini. Sì, ma fai ancora la prostituta, amica mia? Sempre. Sempre. Quanti anni hai? Vabbè, scusa che non mi ricordo. 60. A 60 anni ancora fai la mignotta? Sì, Gesù, perché? No, per carità. Ma... sono i ritardati mentali. Sì, beh, che vuoi dire, scusami, ti ho ridotto a Mantova, lei va mai? Ma la gallina bianca fa buon brodo. Signora, vada a Mantova, che c'è una... E anche a Varese, ci sono delle persone che le posso segnalare che hanno bisogno. Parenzo, uno si chiama Donato da Varese. Ma che tu sei... E Mauro da Mantova. Tu sei più dei musulmani. Ma non ho capito, Lucia, che cosa ti ha fatto arrabbiare di questo signore che sparava ma zero? Ma mi ha fatto arrabbiare perché lui dice che i musulmani non sono finocchi. Bah, non è che ha detto questo, ha detto se la prendeva con i gay che secondo lui sono malati, questo diceva. Ma perché gli arabi non sono malati? No, ma tu stai dicendo che in realtà l'omosessualità nel mondo arabo è molto molto sviluppata, è molto molto diffusa. È sviluppata, soltanto che non lo fanno vedere. Sì, ho capito. Perché gli tagliano le mani. Sì. Scusa, ma Lucia, sì, questo è vero, hai ragione, ma dov'è che eserciti la professione oggi, Lucia? Non ha importanza dove. In casa, Beppe, su internet, con i messaggi. No. Ma diciamolo, Lucia, sono qual una è? Bella figa. Vabbè, questo qua anche poi adesso. Anche se ho 60 anni sono una bella figa. Vabbè, ma questo qua, d'accordo, Lucia. Mi chiamano tutti Tina Turner. La Tina Turner di Pordenone. Questo ho dei dubbi, ma non importa. Ma ce l'hai i denti, scusa? Ce l'hai i denti? Gesù, perché non c'ho i denti? Ma che ne so, magari a 60 anni sei una mignotta sdentata. No. Mamma mia, sì. Che scena. Scusami, Lucia, ma dov'è che eserciti? A casa tua? In una comune? In un comune di Codroipo, vicino, sì, ma, alla Maria. Ma c'hai il papone oppure da sola? No. Ma a 60 anni che devi fare? Ma chi viene da te a 60 anni? Scusami, Lucia. Ma chi te l'ha detto? Vabbè, quanti soldi fai al mese? Ma che c'entra Donato da Varese e Mauro da Mantova, no, da Lucia? Ha detto, da me vengono i malati mentali, dico appunto persone del calibro di Mauro, no, da Mantova. No, guarda, se viene Mantova, quello di Mantova lo mando subito a quel paese. Vede, neanche quello vuoi. Perché? Dici? Perché... Senti come ride. Io senti... lo mando subito a quel paese. Quanti clienti hai fatto oggi? Perché io posso mandare... Sì? Quanti clienti hai fatto oggi? Zero. Neanche uno. Neanche uno. Pronto, dici che eserciti. Ma chi c'è ieri da te a 60 anni? Amica mia, a 60 anni è finito. No, non dovresti... Questo lo dici tu. La Tina Turner di Pordenone. Esercita a Codroipo. Facciamo un po' di pubblicità. Questa oggi non ha avuto nessun cliente. Ragazzi, se siete a Codroipo e qualcuno insomma ha voglia di qualche avventura... Lucia, come fanno a rintracciarti? Dov'è che leggono qualcosa? Non posso dare il cellulare, sennò è favoreggiamento della prostituzione. Ma certo. Io non ho chiamato per farmi pubblicità. No, ma lo so che non hai chiamato per farti pubblicità, però siccome oggi non hai... Io ho chiamato per quello là che parlava dei musulmani. Sì, poi te lo faccio ascoltare alle 7:15 quel signore. No, molto... no, per l'amor di Dio, guarda che spengo subito io. Ma scusa, poi tu, invece di fare la mignotta, ascolti la zanzara, questo è dalle 6:30... Io non vuoi... sì, sento sempre la zanzara. Dunque tu dalle 6:30 in poi praticamente questa, non eserciti. Anche a mezzanotte sento. Scusa, ma quando è che fai la mignotta? Scusa, quando è che fai la troia? Per curiosità. Io qua... faccio la troia, sono nel macchina. In macchina? Ma perché tu in macchina? Ma tu sei in macchina per strada, allora lo fai? No, sono nel camper. Ah, nel camper, tutti in camper. Ogni tanto ci chiama gente sento, dal camper. Anche se faccio uno lo sento. Scusa, amica mia, allora cerchiamo di precisare anche logisticamente. Codroipo, siamo a Codroipo, giusto? Un camper a Codroipo. La cosa mi lusinga abbastanza perché effettivamente questa trasmissione ha come ascoltatori manager molto importanti della finanza italiana. Sì. Ma e anche la signora Lucia da Pordenone, mignotta in un camper vicino a Codroipo. Una cosa, io senza guanto non vado. Senza guanto? Ma come fai? Perché questi imprenditori, questi ricchi, vogliono tutti fare senza guanto. Ah, guanto, capito? Il guantino. Ma questo fai bene, questo fai molto bene ed è anche un grande insegnamento. Possiamo trasformare questa conversazione delle 18:40. No, perché i ricchi vogliono fare senza preservativo. Vogliono fare senza preservativo. E allora io sai cosa gli rispondo? Se tu sei malato, perché mi devi attaccare a me? Beh, una risposta corretta, cioè la signora è molto più intelligente di tante persone che si reputano tali, questo caro Parenzo. Questo non c'è dubbio. Ho capito, ma è un grande insegnamento quello che dà, anche un... Parenzo, stai zitto tu. Ma adesso non ha detto niente, poveraccio, c'ha pure malte gli ebrei. Ma tu non sei un ebreo. Ma come no? Ebreissimo. Detto dalla prostituta. No, non sei un ebreo. Ma adesso perché è prostituta, che problema c'ha? Non ho capito. No, ma per carità. No, ma perché odia le prostitute? Cosa gli hanno fatto? No, ma non odio nessuno. Sì, brava. Odio le volontario. Non c'ho il bagnaccio, non c'ho nessuno. Ma allora benissimo, ha tutta la mia stima. Ma è un lavoro come un altro. È un lavoro come un altro. Lei sono sfruttata. Quanto? Non ho capito. Quanto sì, quello tossisce. Quello c'ha sempre. Lei ha la mia stima, cara. Scusami, come? Lucia, dice che ti stima, Lucia. Lei ha la mia stima. Ma perché mi deve stimare? Prima vabbè, mi allora odiava. Vado a fare il culo. Che devo dire? Amica mia, no, la critico, mi dice perché la critico. Dico la mia Lucia, stima, non vuole. Spiegami una cosa, ma come si fa però a stare in un camper? Perché non lo fai in un appartamento? No, non c'ho voglia. Perché nell'appartamento... Ma dove vivi? Sempre nel camper? Ore senza fare niente. Ti arriva uno, ti dice senza guanto, lo mandi via e non lavori. Vabbè, ho capito, però può succedere pure nel camper, però. No, nel campo posso mandarla a quel paese, io viene un altro. Ragazzi, ho capito. Stiamo conoscendo un mondo. Stiamo conoscendo un mondo. Ma tu... come FBAR che dice che vuole portare. Sì. Devono portare certificato medico le prostitute. Sì. Ma perché non devono portare certificato medico anche gli uomini che vogliono senza guanto? Brava. Scusami, anche quello è vero, però ma è difficile. Tanta pubblicità, si vuole fare pubblicità da sola questa FBAR. F-Ball, Lucia da Pordenone, palla. Lucia da Pordenone,

Guarda, lei è tornata nell'Islam come sono tornato anch'io nell'Islam. Ah, ma perché tu sei in realtà non sei, sei musulmano convertito? E sono tornato nell'Islam. Beh, sei tornato. Come nato, no, perché nell'Islam si dice tornare. No, io non sono, io non torno da nessuna parte. Io non sono nato nell'Islam. Non sono nato nell'Islam. Sai cosa vuol dire essere musulmano, parento? Io sono nato per i cazzi miei, amico mio, non nell'Islam, capito? Sono nato Giuseppe Cruciani sull'anagrafe, non c'è scritto Islam. Il tuo problema. Sei come la Sant'Anché, quando parlo gli altri... C'entra la Sant'Anché i froci, no? Sono, vanno curati, hai detto, giusto? Vanno certo. curati. Come vanno certo. curati? Come certo? Come, certo. come vanno curati? Certo, come dire da certo? Da un psicologo, da qualcuno. Non lo so, anche con delle... Vanno curati, con, sì. con delle siringhe, con delle pasticche, con qualcosa. Che dici? Che altro sono delle terapie? Delle terapie per curarli, questo certo. l'Islam. L'Islam, l'apertura no, dell'Islam. L'Islam, questo qua. Tu, a te ti piace inchiappettare tua moglie? No, assolutamente no. No, no, cioè tu sodomia non pratichi? Assolutamente no. È un peccato? Certo. Certo, peccato. Io non sono l'Islam. Una bestia. L'Islam. Io non sono una... un essere umano. Ah, perché chi si inchiappetta sono bestie. Ovviamente, da noi si dice nel buco della merda ci va solo col badile. Vuoi sentire come si prega? Fammi sentire una preghiera sì. all'Islam, dai. Allora, nome. Intanto si fa richiamo alla preghiera. Sì, come e si fa? Dice... E si dice con un canto, sì. si dice, ascolta. Dimmi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Vuol dire Dio è grande, sì, Dio so. È grande. Sì, poi? Ashhadu an la ilaha illallah. Testimonio che esiste solo un unico Dio, poi? Dio di tutti. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله vuol dire testimonio che Muhammad il suo profeta messaggero poi? E poi si dice Hayya ala salah Hayya ala salah venite a pregare due volte sì. Hayya ala falah poi? Hayya alal falah. Se per voi è normale. Beh, questo va andate a vivere. Poi si dice Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Vuol dire Dio è grande, Dio è grande. Esiste solo un Dio di tutti. Senti, ma la donna com'è considerata nella tua concezione? La donna è la dolce metà dell'uomo. Può guidare, per la esempio? La donna può fare tutto quello che fa sì, l'uomo. Sì, sicuramente è così. Cos'è che non può fare la donna? Per esempio, può non tradire... Non può tradire l'uomo. Non può tradire l'uomo. Non può farti cornuto. Non può tradire l'uomo. Se tradisce non l'uomo... Farti, non può farti cornuto. E se tu invece tradisci l'uomo? Non può neanche l'uomo. Ma se la donna tradisce l'uomo, che succede? Uguale sia l'uomo che la donna. Se va, è sposata, va punito. L'adulterio va punito. Certo. Certo. Tipi da zanzara. L'Islam dei convertiti, ragazzi. L'Islam dei convertiti. Beh, non tutti, per fortuna. Beh, non tutti, tutti molti, fortuna. Molti così. Vittorio da Milano, vai, Vittorio. Vittorio. Buonasera. Dimmi, dimmi. Ciao Cruciani, allora, intanto mi stupisco di te che non sei uno che si mette prono ai potenti, però davanti alla Juve diventi un tifoso normale come gli altri. Sì, perché naturalmente tu pensi che da una parte ci siano i potenti e dall'altra parte ci siano i deboli, no? Questa puttanata tu credi che da una parte ci siano i potenti e dall'altra i deboli. E dall'altra i deboli, vabbè, perché ognuno può credere anche agli elefanti che volano, va bene? Fammi spiegare il concetto, poi vediamo se è una puttanata. Sì, ma io non la guardo con gli occhi del tifoso, perché a me non me ne frega niente, non sono all'interno vabbè, delle vostre beghe, ascolta. Inter, Milan, Juventus, non me ne fotte. Allora, tu sei laziale, ma laico, insomma. Io ho un po' di anni e mi ricordo le storie sì. a partire dal 1961. Vabbè, ragazzo, però, amico mio, siccome ognuno la vede come con gli occhi no, da tifoso... No, non è che la vedo. Sì, è così, tu hai la tua verità. Va bene, d'accordo. Allora, in una gara ciclistica, podistica, sì, un'atletica, sì. se quello davanti viene squalificato per doping, per truffa, la medaglia va al secondo, al terzo. Quindi è successo all'Inter. Poi se qualcuno si deve vergognare alla merda, è Bughini... perché si dovrebbe vergognare di quella coppa che hanno portato a casa dal Belgio, se ti ricordi. Vabbè, adesso andiamo addirittura all'Aisel con la Coppa dei Morti. No, certo, hanno portato a casa quella coppa. Vittorio, ti sto salutando. Io metto le fotografie quando sono scesi dall'aereo. Va bene, va bene, va bene. Si dovrebbero vergognare. Si dovrebbero vergognare di quella roba lì. E voi giornalisti, queste cose qui dovreste farle presenti. Poi tu sei juventino, non sono juventino, non c'entra nulla di la vicenda dell'Aisel non c'entra assolutamente nulla. Ma si devono vergognare di quella coppa lì, ma sì, senti, no? Amico, ma cosa cazzo c'è adesso? Stiamo parlando di un'altra cosa. Di un'altra cosa, chiaro? Quella Roberto è una coppa di merda. Non gli scudetti, non lo scudetto di merda che ha detto Mughini. Ho capito. Bene, hai detto la tua cazzata. Arrivederci e grazie. Roberto da Latina, dai. Salve, Parenzo. Dimmi. E Cuciani. Dimmi. Sul fatto dell'Islam, prima ho sentito quel signore che cantava le preghiere. Sì. Però mica l'ha cantata tutta la preghiera. Vabbè, perché era in ritardo la preghiera, allora? No, perché praticamente lui non ha detto che nella preghiera dell'Islam, quella che dice Dio è clemente e misericordioso, eccetera, non chiede, nella preghiera, sono 5 volte al giorno, in tutto 17 volte, dicono che Dio non sia adirato, che ci colmi dei suoi favori. Sì, però ragazzi, questo qua è un corso di Islam, Roberto, no, cosa vuoi dire? Spiegami. Voglio dire che c'è molta ipocrisia in tutto quello che... Va bene, arrivederci, l'Islam. Guido da Milano, vai. Ragazzi, buonasera. Dimmi. Buonasera. Io volevo riunirmi per il discorso di ieri del... Volevi fare riunirti? Cioè, sì, che cazzo vuol dire riunirti? Riunirmi, ma parla come magna, no? Cioè, hai ragione. Che parli, volevo riunirmi, ma che è? Cioè, vabbè, dai, dimmi. Il passaporto di ieri, no? I napoletani, sensazionalismo, una cazzata di qualità. Ma cosa? Allora, adesso non ho capito il fatto niente. Di togliere il passaporto ai napoletani. Ma chi l'ha detto? Ma chi lo dice? L'ha detto un ascoltatore, un cretino. L'ha detto un cretino ieri, forza, dai. Un cretino, va bene. Allora, aggiungiamo quest'altra cosa, ok? Facciamo un bel referendum, che se ne fanno tanti, cazzate e quant'altro, solo per i campani però. Ma non che vuol dire? Italiani. Cosa vuol dire? No, un referendum, fammi parlare. Divento pazzo io. Su cosa? Diamo ai campani, solo ai campani, sì. Ok, che c'è chi la pensa bene e chi la pensa male, sì. Se vogliono che intervenga l'esercito, solo in campagna. L'esercito non serve una mazza, purtroppo. Non serve una mazza se non gli si dice cosa fare. Ciao, sì, Telemaco Roma, sentiamo la stato. Beh, però già vederlo in giro l'esercito Telemaco. Un po' funziona. Telemaco, vediamo come si presenta. Andate e passate tutti a fil di spada, comprese donne e bambini. Dove? Questo è quello che il Dio di Israele ha detto nei confronti di un altro popolo, anch'esso di origine semitica. Ma che vuoi dire? 12:21-10. Voglio dire che quando aspetta, si parla di religioso bisogna fare anche attenzione all'Antico Testamento, perché anche non è un corso però questo qua di religione avanzata, perché prima quello voleva parlare dell'Islam, adesso tu citi non so che cosa. Amico mio, di cosa cazzo vuoi parlare? Che praticamente la politica sionista è giustificata anche dall'Antico Testamento. Io forse ho sbagliato tutto, ragazzi. Posso citarle, Giudici 21:10, ma anche parte del Deuteronomio. Cioè, o dei giudici, ma di che sta parlando questo? Parenzo, chiami Telemaco, tu o chiami Roma, fate bene, fratelli, reparto 4, stanza 21, infermiere immediatamente, grazie. Sì. Altro che 21, allora, 10. Adesso le leggo. Sì. Samuele 15:3. No, Samuele, te lo prendi? No, le pagine, strappo le pagine e mi ci pulisco il sedere, perché sono le 19:29 e torniamo senza Samuele, chiaro? Il richiamo alla preghiera. Che cazzo è, un vaccino? Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Cruciani, io vivo a Manchester e ascolto la trasmissione principalmente in podcast, ma non si può più sentire. È la pubblicità della Celentano, è la pubblicità di Barisoni, è la pubblicità della società di trading. E basta, cazzo. Ormai sta trasmissione è massacrata, sia in diretta che in podcast. Ragazzi, io non rispondo di quello che avviene nei podcast, nella pubblicità, eccetera, eccetera. Se ci sarà, ci sarà un motivo pure, bisogna guadagnare. Meno male che c'è la pubblicità, ragazzi. Bisogna guadagnare i quattrini qua, dai. Molti si lamentano, mi mandano i messaggi. C'è il canone qua, no, su, d'accordo. Ragazzi, molti dai, si lamentano che c'è la pubblicità nel podcast. Basta, pubblicità ancora, pubblicità. Manda con la pubblicità, bellissima. Mandala qua. Cruciani, se non togli la pubblicità dal podcast, vengo lì e ti do fuoco. No, io ho il sospetto che in realtà non sia una scelta, ma sia la replica della pubblicità, quella normale. No, è una fatta apposta. Boh, chissà. Vabbè, chi se ne frega, ragazzi. C'è quello che c'è. Andate avanti col podcast e non rompete i coglioni. Esatto, dai. Esatto. Continua il rosicamento napoletano, continua il piagnisteo napoletano, caro napoletano, Parenzo. Precisiamo, non Roberto. Dei napoletano. Tifosi del Napoli, dai, dei tifosi del Napoli. No. Io mi collegherei, farei una telefonatina all'amico Carlo Alvino, speaker radiofonico napoletano molto molto tifoso, che abbiamo già ascoltato qui nelle sue numerose performance anti-Juve. Sentiamo un po' come va l'umore, eh? Alvino? Vai. Pronto? Carlo? Sì. Amico mio, sono Cruciani, come stai? Quando vince la Juve per me non è mai tutto bene. Beh, addirittura, amico mio. Ho capito, ma hanno meritato, no? Hanno meritato? No, perché non hanno meritato? 12 punti di vantaggio e 3 giornate dalla fine. Hanno rimontato, hanno vinto 24 delle ultime 25 giornate. Che hanno fatto? Questi sono numeri che, secondo me, non rispondono fedelmente a quello che è stato poi lo svolgimento delle partite. Cioè, in che senso? Spiegami, non ho capito. L'ultima, in ordine di tempo, qual è stata la partita che ha dato alla Juve il titolo? È stata Fiorentina-Juventus. Va bene? Beh. No, beh, il risultato che è uscito dal campo è fedele a quelle che si è visto nei 90 minuti. Io credo che c'è qualche episodio che almeno ci fa discutere su, cioè, questa, tu partita. Dici Bernardeschi fuori gioco, dico quello, mica però quello. Mi stai dicendo che secondo te, se uno va a vedere gli errori arbitrali, la Juve non meritava di vincere lo scudetto, non sarebbe stata a questo punto, o no? Se uno va a vedere gli errori arbitrali, vede che la forza della Juventus è stata enorme, ma nei pochi momenti di difficoltà, la Juventus ha avuto qualche aiuto. L'aiutino, dici, l'aiutino. Senza gli aiutini, nei momenti cruciali della stagione, aiutano. Però scusami Carlo, qui ci sono le dichiarazioni di Maradona, no? Che, la Juve ha tanti fuoriclasse, specie nella federazione arbitrale. Ma è una vergogna, dai, su. Quello che dice Maradona è Vangelo, caro Giuseppe Cruciani. Ma che Vangelo, dai, quello Carlo. Quello che dice Maradona, per me, quello che dice Maradona, questa è mia somma responsabilità, quello che dice Maradona è Vangelo. Ma cioè, secondo te queste parole sono normali? Sono parole che secondo me rispecchiano la stragrande maggioranza del pensiero degli italiani, di quello che hanno il coraggio di dirlo. Io dico questo, di fronte, cioè, non alla si pare, non si parte sullo stesso piano, stai dicendo? Ogni volta non si parte sullo stesso piano. I fatti dicono questo, sono sotto gli occhi di tutti, gli episodi sono tantissimi. E poi una cosa che mi fa rabbia, sulla quale nessuno mi sa dare una risposta, perché in Italia questi vincono sempre e in Europa fanno sempre brutte figure. Ma veramente l'anno scorso hanno fatto la finale del Champions League, ma che stai a dire? Lo ricordo bene come l'hanno fatto. Vabbè, ho capito, poi hanno perso, d'accordo, però non è che hanno... No, dai, Carlo, veramente questo è il vittimismo. Allora, guarda... È un vittimismo continuo, un piagnisteo continuo, dai. No, questa è la cosa più brutta che puoi dire a un napoletano. Ma te lo dico, infatti è un piagnisteo. E allora, ti dico la verità, noi... Meglio essere tacciati di vittimismo che passare per fessi. Non mi arrenderò mai finché non sarà il risultato deciso dal campo e solo dal campo. Vabbè, però Carlo, tu che sei uno che sei un tifoso verace, di ai tifosi della Juventus, mi inchino alla vostra superiorità, dillo. Mi devi mettere una pistola alla tempia e neanche lo dico. Mi inchino alla superiorità della Juventus, dillo, mi Carlo. Mi inchino ai risultati del campo senza condizionamenti esterni. Purtroppo quest'anno non è accaduto questo. Non ciao Carlè, non ce vuoi sta, non ce vuoi sta. Ciao. Com'è che si chiama Alvino, no? Alvino, Carlo Alvino. Sì. Si dovrebbe dire levate Iervino, no? Levate Iervino. Beh, quel nome gli sta bene, nome di battaglia, nome che ricorda quell'unica basta roba che alcol, sa fare. Basta alcol. Antonio, provincia di Genova, dai. Antonio. Pronto? Dai, dimmi. Ciao. Nel nome di Allah, Pio Misericordioso, avrebbe voglia di dirvi. In che senso, scusa? Ecco un altro. Sentivo prima la preghiera. Ma che sei, islamico pure te, un altro convertito? No, per carità, no, cristiano. Cioè, ma diciamo la verità, ragazzi, i convertiti all'Islam, cioè quelli che sono in Italia e si convertono, sono malati mentali, sì o no? Dipende. No, ma ragazzi, uno che è nato in Italia e si converte all'Islam, c'è qualcosa dentro... Tutti quelli che chiamano alla Zanzara sono malati mentali. Ma lascia perdere adesso, su, ma non stupido, che stupidaggini. Tutti che quelli dici, che ascoltano, ad esempio, chi, ma non tutti quelli che ascoltano. Chi è nato in Italia, cresciuto in Italia, non sto dicendo del Marocco, della Tunisia, dell'Arabia Saudita, della Siria, cioè, sto parlando uno nato, cresciuto in Italia, che a un certo punto si converte all'Islam. Non è che si converte tipo al buddismo, che dice vabbè, esistono i buddisti, ogni tanto è diventato una moda. Io ho tanti amici che a un certo punto per 20 anni non credevano nemmeno alla propria famiglia, alla propria sorella, e a un certo punto sono diventati buddisti, vabbè, perché pensano di trovare armonia, serenità nella vita col buddismo. D'accordo, è più o meno la stessa cosa, però l'Islam, questo è il punto, cioè il buddismo è anche uno stile di vita, però non è che va a inficiare il comportamento quotidiano. Al massimo senti la preghiera, senti una preghierina, ma non prende in giro, ogni tanto non rompono i coglioni a nessuno, in fin dei conti, no? Cioè il buddista ogni tanto ci può essere qualche relazione che viene male con un buddista. Io per esempio con una buddista non ci potrei stare, francamente, cioè non può funzionare, no? Uno ogni tanto, scusa, devo andare a pregare, però l'Islam, uno che si converte all'Islam, ragazzi, ma c'è qualcosa che non funziona nel tuo cervello, c'è qualcosa, ma qualcosa di grosso che non funziona, Antonio, dai. Sentivo che parlavate tra voi due. No, te ne vendo una, per sapere. Me ne vendi una, ma che fai? Spacci cocaina, che fai? I giannizzeri, che erano la guardia. Oggi la gente interviene sulla storia, dai. I giannizzeri, dei musulmani, roba pazzesca, dai. Erano convertiti obbligatoriamente, cristiani convertiti obbligatoriamente. Vabbè, ed erano dunque? I fedeli, erano la guardia scelta poi? Dei vari pascià, queste. Vabbè, per poi? Dire come erano. Amico mio, andiamo avanti, convinti. Perché hai chiamato? T'ho chiamato per questo. Tu hai citato prima la Gabanelli. Sì, su Formigone, sì. Degli stipendi che non si possono pignorare. Allora? No, nella stessa trasmissione è venuta fuori una bella. Dimmi, che cosa? Sta zitto. Questa è la radio, uno deve parlare, sta zitto, dai, forza. Allora, quella della zecca dello Stato che avrebbe messo dei gettoni d'oro. Sì, come no, certo, i gettoni d'oro che pesano, credo, che hanno un titolo il 5% oro, di oro in meno. Minore. Sì. Allora, mi è venuto in mente che nel Medioevo c'erano i tosatori di fiorini, i tosatori di monete. Si prendevano la lima, le monete. Nel Medioevo? Ma non lo so, sì, adesso voglio capire dove vuole arrivare Antonio. Antonio, dove vuole arrivare? Nel Rinascimento c'è... Voglio arrivare a questo. A quei tempi i malfattori, presi con le mani nel sacco, sì. Se gli andava bene gli tagliava la mano, se gli andava male andavano a finire al rogo. Ecco, ma ci voleva così tanto per arrivare a questo concetto? Cioè, con questo Stato che abbiamo noi, sì. Cosa dobbiamo fare? Cioè, nel senso che secondo me bisognerebbe tornare a quando tagliavano le mani? No, dico lo Stato che si rappresenta. Con lo Stato che ha rubato, tu dici, nel caso dell'oro. E che ne che so, cioè, dal cittadino, bisognerebbe scoprire, c'è cioè di mezzo anche Banca Etruria, chi ha organizzato questa che sembra una truffa, esatto. E poi chissà. Grazie, sì, Enrico, ma... Enrico, provincia di Napoli. Enrico. Buonasera. Vai, ciao. Dimmi. Buonasera. Ciao, buonasera. Luciano, una cortesia, io ti vorrei chiedere, ma tu davvero condividi la tesi di Mucchini che gli scudetti sono 34? Assolutamente. Assolutamente sì. A me viene il dubbio che tu lo fai perché sei il suo lacchè. Ma il lacchè sarà tua sorella, il lacchè. Io non sono no, il lacchè di nessuno, no, amico mio. È incredibile. Cioè, il lacchè sarà tua sorella. Io non sono il lacchè di nessuno, chiaro? Lui ti ha lanciato al grande pubblico e tu gli sei riconosciuto. Vabbè, veramente che Mucchini mi abbia lasciato al grande pubblico, con tutto rispetto mi per Mucchini, non è vero, è una puttanata, mi scusami. Nella trasmissione di Italia 1, quella che faceva. No, amico mio, ti sbagli, io non c'ero là, non c'ero quando c'era. Non hai capito una mazza e soprattutto ti ricordi male e io non sono il lacchè di Mucchini, chiaro? Va bene. Allora, ho le mie idee, che ogni tanto, anzi spesso, per fortuna, coincidono con quelle di Mucchini, chiaro? E sono d'accordo con te, ma allora le sentenze non vanno rispettate. Senti, amico mio, le sentenze vanno anche interpretate e giudicate. Io considero le sentenze sportive, e in parte anche quelle penali sulla vicenda di Calciopoli, una buffona, ma lo dico da anni ormai, cioè da quasi 10 anni, perché non è la prima volta che lo dico. Tu dici che sono un lacchè, io ti dico che lacchè è tua sorella, innanzitutto. innanzitutto. E poi comunque non sono i lacchè di Mughini. Dove andiamo? Luca, Ravenna, vai. Ciao ragazzi, buonasera, grazie della compagnia che mi fate durante i viaggi. Allora, io sono un camionista che pare spesso con gli operai dove vado a scaricare nelle fabbriche. Sì. Bene. Di cui un operaio marocchino che spesso vado a scaricare lì, sì. Adesso la tiro corta. Allora, ci siamo messi a parlare così del più del meno, allora gli faccio, ma tua moglie, beh, lavora tua moglie? Cioè, la crisi così, c'è bisogno di due stipendi in casa. Ah no, mia moglie non lavora perché basto io, primo. Poi dopo li faccio. Vabbè, saranno anche cazzi loro, no? Dicendo, però sì, non è un obbligo lavorare, no, eh? No, no, no, per l'amore di Dio. Cioè faccio, che per legge... Allora, aspetta, fammi capire. Sì, sì. Ce l'ha la patente tua moglie? Perché sai, può succedere... No, perché lui mi fa, devo andare a una visita medica, mi devo accompagnare uno, allora faccio, ma tua moglie ce l'ha la patente? Sì. No. Ma dico, beh, sarebbe buono che tua moglie avesse la patente, perché succede qualche cosa, l'imprevisto, sai. Poi è anche più libero per girare... Allora? No, non serve. La patente a lei non serve perché basto io. Dopodiché sono andati sul discorso, no? Boko Haram, l'ISIS, un discorso lì così, e loro dicono, ma è possibile che, cioè, gli arabi non riescono a fermare, cioè, questa cosa qui? Cioè, non... E allora? E come ha risposto? Un sacco di turismo così, l'ISIS non esiste, sono gli americani. E vabbè, Luca... Per metterci contro, tipico musulmano, italiano, che vuole relegare la moglie, o comunque in questo caso marocchino, di origine marocchina, che vuole relegare la moglie a un ruolo marginale nella società, che ne dica Parenzo, e che pensa che l'ISIS sia un'invenzione degli americani, dei servizi segreti, eccetera, eccetera. Ciao Luca, ciao. Ciao Ciani, come maiale ti consiglio di adottare un maiale nero, molto selvatico, ma decisamente migliore. La Zanzara. Get your motor running. E mentre a Roma, caro Parenzo, la situazione del centrodestra è, diciamola, disastrosa, una tragedia assoluta, noi qui al telefono abbiamo una signora che secondo me se ne frega assolutamente di quello che accade a Roma. Ha appena pubblicato un libro sulla sua biografia. Un libro, fammi indovinare, aspetta un attimo, ha appena scritto un libro. Un libro, sì. Golda Meir, no, perché è morta, quindi non può aver scritto un libro. Non fare ironie, dai, la Thatcher, su. La Thatcher. Oh, adesso io lo sapevo, aspetta, lo sapevo. No, no, no. Aspetta un attimo, la Iotti, no? No. Una donna, anche perché politica... non le può pubblicare che è morta. No, appunto, quello stavo pensando. Stavo pensando... Tutte morte quelle che hai citato tu, No, tutte no, morte. No, stavo pensando... Ah, la Clinton, hai invitato la Clinton? No, ottimo. No, no. Daniela Santanchè, buonasera. Ah, molto bene, buonasera. Molto bene, uguale, molto bene. Buonasera a lei a tutti. Parenzo, buonasera. Ti piglia in giro, Daniela, no, Parenzo, no, ti piglia bene. In giro, dicendo che... Se no non sarebbe Parenzo, sarebbe un altro. Senti, cara Daniela, bene. Allora tu hai pubblicato un libro, libro da comprare, però solo una donna, sono la santa di Mondadori, però io voglio iniziare da un'altra cosa. Ieri ti ho visto alle prese con l'orto, non è che mi sarei diventata un po' vegana anche tu, ti ho visto, no, le... assolutamente, cioè la mangi la carne la fiorentina, sì. Le hamburger, adoro la carne, mi piace da bestia la Brava. Carne italiana, che è una carne fantastica, la carne italiana è fantastica, sì, effettivamente è così. E la cosa che voglio sapere, dunque, tutto questo dibattito che c'è stato anche qui a Radio 24 sui vegani, in particolare la Zanzara sui vegani, adesso quando parla un vegano, soprattutto una donna, il primo pensiero che hai qual è? C'è uno che ti dice, guarda, tu stai per contribuire al disastro dell'umanità, sei un assassino perché uccidi un animale. Una vegana praticamente ce l'avete anche in casa lì, la signora Brambilla, dentro Forza Italia. Ma voglio dire, ognuno è libero di fare quello che vuole, di mangiare quello che vuole, ci mancherebbe però che qualcuno imponesse a me o agli altri di mangiare quello che dicono loro. Comunque tu mangi un sacco di carne, La carne, il salame, la mortadella, il prosciutto crudo. Che donna, mi piace, ragazzi. Tutto da morire. Che tutto meraviglia. Ciò che carne mi piace. Sì, però non me lo diresti in questo modo così ambiguo, però, perché sennò veramente mi spingi. Fino adesso non ho fatto doppi sensi apposta perché non mi va di farli, però adesso tutto quello che è carne mi piace. Proprio in questo momento, proprio in questo momento me lo dici poi. Gli allevatori italiani. Vabbè, sì, d'accordo. Penso, voglio dire, fatto militare la nostra carne. Vabbè, perché la carne piemontese forse non la conosci. No, la conosco molto bene, come non la conosco. Ma volevo però... capire cosa vuol dire mangiare un bollito. Brava, buono, ho preso la testina. La carne, sì, la carne. Cioè, l'uccisione degli animali, non ti provoca nessun moto di compatimento, no. Diciamo la verità, dobbiamo essere sinceri. Io sono anche per la caccia di selezione. la caccia dire, di selezione. Ma ti sei andata mai a cacciare? Perché sono agli equilibri. Andata a cacciare. Oh. Avevo un padre a cui piaceva. Oh, una donna che va a caccia. Anche. Bellissimo, cioè hai sparato. Che meraviglia, come le Amazzoni. Sì, bellissimo. Certo. Ma tu c'hai il porto, cioè puoi andare a cacciare? No, tutto ma quando, no, no, quando eri piccola? Non posso, quando ero non piccola, posso, però sparato, mi piaceva e poi andavo con mio padre. E che hai ammazzato, piaceva. Scusa? No, io ho ammazzato niente, però voglio dire i fagiani, sparato, la cacciagione, ma ero piccola. Avrà sparato agli uccelli. Hai sparato agli uccelli così. Avrà sparato agli uccelli. No, vabbè, hai altri sistemi. Senti, ma a proposito, però io non posso sfuggire a questa domanda, cara Daniela. Sì, lo so che tu sai che io... Sarà una domanda interessante. Sì, io sì, so come solo del... lei sa fare. Sì, no, gliela faccio io. La domanda che tutti... No, no, guardi, la domanda che tutti si aspettano è questa. Cosa pensa del pressing tedesco sull'Italia da parte della Bundesbank? No, no, ragazzi, no, non è questa, no, forse. No, forse non è questa. Direi che non è forse questa. Forse non era questa. Direi però, che non no. è questa. Allora, no, però mi appassiona molto. Sì, ma lo so che ti appassiona molto. Che abbiamo. Certo, assolutamente. Imprenditori balneari. Assolutamente. Allora, mettiamo, però non vogliamo, questa. Vogliamo mettere un tutte punto. Tutte imprese familiari. Sì, certo. No, parliamo pure di questo. No, no, assolutamente no. Mettiamo, è una materia che seguo. Sì, mettiamo un punto fermo a, una, sì. a tutto quello che sì. è successo in ultime settimane. Sì. Un punto fermo e direi quasi definitivo. Qui alle 19:51 alla Zanzara, mandare un punto. Un punto definitivo. Sì. Allora, un punto definitivo. Mandare un la, punto. La cosa la è questa. Merkel, lei, la Merkel. Signora Santa che è ancora fidanzata. Obama ha detto che la Merkel. Oddio, questa è lei è finito. Vedi come tieni la suspense. Vedi. Vabbè, vabbè, d'accordo. Per un incidente, se no non sarebbe mai stato. Com'è presidente Parliamo degli Stati Uniti? Di Obama. Per... In che senso presidente degli Stati Uniti per un incidente? Incidente. Per cioè, un incidente, cioè nel senso Obama non è manco, me, non è manco americano, dici? Non è manco americano? No, no, io non dico che non è americano, che dico che è stato presidente per caso, presidente, per perché un se non fosse successo quel disastro finanziario, vi ricordate, no? Ah, tutto per quella succedeva vabbè. In quel momento, beh, non adesso. Sarebbe diventato. Lasciamo perdere Obama, che è un tema troppo grosso. Allora, lei, signora Santanchè, lei è ancora sì. oh. la compagna del signor nostro amico Alessandro Sallusti? Sì. Piace. Oh no. Ma io posso dire una cosa, sì. fare un'anticipazione assoluta? Ah, facciamo un'anticipazione. Siccome sì. tutti sono interessati a questo, io do un piccolo e modesto consiglio. Sì. Comprate il libro, leggete, vabbè, e c'è scritto tutto. Vabbè, c'è scritto tutto. È d'accordo, ma questo è stato scritto prima. Io, allora, però, eh. Sono una che vende la pubblicità. È stato scritto prima, però. Avevo ragione io, allora. Avevi ragione tu, sì. Fatemi fare la pubblicità. Vabbè, ma il libro l'abbiamo già citato. Comprate il libro. Sì, vabbè, d'accordo. E a tante domande. Però adesso rispondiamo. Questa cosa qua molto semplice, che non c'entra niente con niente col libro, non c'entra nulla. C'è un indizio che ti posso dare, Cruciani, allora, che a te sfugge, perché la notte tu fai solo l'amore e non guardi la televisione, mentre io guardo la televisione. L'altra sera c'era il mio grandissimo amico Sallusti, sì. collegato sulla 7 in un'autorevole trasmissione, ed era collegato sì, da casa. Da casa di chi? Da casa dove abita adesso, penso. No, da casa della signora Santanchè. Appunto, dove abita. Cioè, quindi, non c'è una distinzione. Voi capisco che avete quindi, un senso della proprietà. Di quindi cosa tutto. Vuol dire questo? Che sono ancora insieme. Oh. Oh, allora, possiamo dire questa cosa? Siamo ma ancora... comprate il libro. No, però Daniela, dai, rispondimi a questa domanda. Siete ancora insieme, sì o no? No, ma io dico comprate il libro. Vabbè, lo compreremo, d'accordo. Tutto. Siete dai. Ancora insieme, sì o no? Compra il libro, dai, così su, lei Daniela, sì, poi... Ma voglio dire, sta nei fatti. Ma cosa fate, il gossip? Ma no, facciamo il gossip. È una cosa di cui si parla in Italia. E... Appunto, di cui si parla, e vi sto dicendo. E allora? Una risposta meravigliosa. Vabbè, d'accordo, la risposta... No, io la capisco. Io da un punto di no, vista ragazzi, del marketing... Però io voglio arrivare a un punto definitivo su questa cosa. Siete ancora insieme, sì o no? Sì, sì. Io vorrei mandare un punto invece. Comunque, dai. Lei vuole mettere un punto e io voglio mandare un punto. Mettiamo un punto, dai. Io gli ho dato la risposta. No, d'accordo, ma la risposta però non c'entra niente con la risposta. Compri il libro. La risposta vera, la risposta vera la voglio avere da te. Siete ancora insieme, sì o no? Ma non è una risposta no, difficile da dare. Libro. Vabbè, ma chi se ne frega? Il libro è stato scritto ma prima, no, dai. No. Ma cosa è stato scritto prima? Dai, Daniele, dammi questa risposta. Vabbè, d'accordo. Ma certamente che sì. Oh. La voglio dire. E che ne so, io ma ne abbiamo letti tutti i colori che te sei messa col principe. Ma guarda, qual è il che ne so, le foto, l'amica tradita, un sacco di cose. Dai, su, certamente sì. Cioè, siamo ancora insieme. Perfetto. Bellissimo. Ho risposto? No? Possiamo beh, passare al è una argomento. Cosa bella questa comprate qua. Comprate il libro e leggete. Vabbè, però adesso è la quinta volta che me lo dici. Cioè, abbiamo capito. Allora, adesso, ti do una notizia. Il libro bravo, verrà dato. No, dai, su. Ho appena cambiare parlato col marketing del Sole 24 Ore. Il libro della Santanchè verrà dato in allegato ecco, la domenica beh. Al posto dell'inserto beh. Cultura. Ma poi non è il modo migliore per vendere i libri questo qua. È il modo peggiore per vendere i libri. No, il migliore. E lo vedremo poi. Facciamo il È il modo peggiore. Ma tu dunque sei ancora innamorata? Perfetto. Scusa? Sei ancora innamorata? Beh, ma molto. Io non posso vivere senza l'amore. Non sarei capace. Vabbè, però sarei un'altra persona. Uno passa dei momenti in cui non è più innamorato. Poi voglio dire, l'amore non è nelle piene disponibilità e quindi io vivo giorno per giorno. Ma oggi la situazione è questa. Cioè sei innamorata? Certamente. Sei innamorata di Alessandro? Ma certamente. Ma mica ho detto che è una bugia. Ma mi impressiona molto. No, assolutamente. Parenzo, per esempio, è entusiasta di questa molto cosa. Molto bello, molto bene. Parenzo, bene. Per esempio, a me non me ne frega niente. Parenzo, invece... Parenzo, esatto. Io sono felice quando le persone così sono innamorate. Lui è felice. Io per... dire, c'è un libro. Bello, molto bene. Che parla oddio, di dai, cose. Ci sono degli spunti interessanti. Ragazzi, ora... tutto questo, va voglio dire. Pubblicità. Comprate novella. Pubblicità. Dai, su, ragazzi, però. Dai. Oggi ho vangato l'orto per piantare le verdure. Anche senza volerlo, per una pianta d'insalata non so quanti lombrichi ho sterminato. La zanzara. Allora ragazzi, io mi sono preoccupato per una stima che è uscita oggi, Parenzo. Sono veramente preoccupato. Sai che io a quale settembre stima? Faccio 50 anni, no? Ah, sì, certo. Non si direbbe, ma a settembre faccio 50 anni. Allora, leggo che il 50% degli uomini sopra i 50 anni soffre di ipertrofia prostatica benigna. Ma l'urologo fa molta paura, cioè l'uomo è terrorizzato dall'urologo. Eh sì. E si rischiano naturalmente complicazioni molto, molto, molto più serie di andare continuamente a fare pipì, che è la prima cosa che succede, no? E spesso, ragazzi, questo è vero, spesso sono le compagne, le mogli o le amanti, che ne so, che convincono gli uomini ad andare dallo specialista, dall'urologo. Io lo so bene perché sono nato in una famiglia di urologi, caro Parenzo. Tu non lo sai. No, lo so benissimo perché lo dice in continuazione, giustamente facendo pubblicità allo zio. No, veramente, ma non opera più, per cui non devo fare. Ma voglio dire, la cosa che terrorizza anche me, che ho invece ho appena compiuto straordinari 40 anni, sì, è proprio sì. Quello della visita che mi sono rifiutato ad oggi di fare, perché è un po' invasivetta, diciamo. Cioè, che cosa che ti sei rifiutato di fare? No, ho fatto il check-up completo a Milano. Ma tu c'hai 40 anni, non è che puoi avere paura della prostata. Dai. Però mi hanno detto, guardi, lei ha compiuto 40, vuole che facciamo anche di la prostata, così, scusi, diciamo, professore, quello. Mi stava mettendo il guanto. Di sì, cosa fa? Scusi. Sì. Il professore, no, vogliamo fare, dico no, guardi, meglio che per ma ora non per ora no. Qual è? Sono terrorizzato da quella roba, ma di che cosa, cioè dal dito nel dall'urologo, dalla metodologia che... di rilievo. Vabbè, ma ho capito, ma fatti la cosa prostata. Allora fatti come si chiama, il PSO là, quella roba, ecco, lì farò, no? Quello infatti, sì. Fai quello direttamente, ma il è dito lo lascio a ma te, 40 diciamo, anni no lascio. A 40 anni non è il caso, dai, da 40 in su, ma sì, ma dai, intorno ai 50 dovrei farlo io in realtà. Vabbè ragazzi, beh, abbiamo con noi fila per farlo, eh. Abbiamo con noi Daniela Santanchè, che non fa che pubblicizzare il suo libro. Voglio chiedere però una cosa a Santanchè, che è questa. La Pascale, che una volta definì la Santanchè Crudelia Demon, ti ricordi, caro Parenzo? Stupendo. Proprio qui alla Zanzara, ha dato del troglodita a Salvini. Ora, secondo lei è normale che la compagna fidanzata del vostro leader, il signor Silvio Berlusconi, dia del troglodita a un altro leader politico, chiamasi Salvini? No, secondo me non è normale, ma siccome io sono per la libertà, e se lei lo ritiene, lo faccia. Poi voi mi chiedete, normale? No, non è normale. Cioè, non è normale... non dovrebbe accettare interviste. Ma non dice. È che ho bisogno dell'interprete. Quando dico una cosa, no, penso di sapere d'accordo. Il linguaggio, una convenzione, e penso di saper parlare sì, italiano. Sì, ma dovrebbe, cioè, in quanto compagna di Berlusconi, dovrebbe stare zitta. Non in assoluto, ma su queste questioni qui, ho dovrebbe detto, stare zitta. Ripeto, così almeno stenografato. Vabbè, però cerchiamo di ho capire... Detto, non è, ecco, ho detto, non è normale. Sì? Detto questo, siccome tutta la vita che combatto per la libertà, e quindi voglio dire, sono anche per quando persone la pensano in maniera opposta alla mia, combatto perché possono esprimere le loro idee. No, ma questo nessuno poi dice. Mi chiedo un giudizio, no, dico ma che non è normale. No, ma nessuno dice che non può parlare, naturalmente. Stiamo dicendo un'altra io cosa. Io sono d'accordo, non lo trovo un troglodita. Vabbè, questo qua. Se lei vuole sapere il mio parere, certo, non è un troglodita. Ma questo si poteva anche prevedere. La cosa che voglio capire è la ritiene una cosa sgradevole, la ritiene una cosa. Dare del troglodita, se la moglie di Berlusconi, la compagna, quella che è, prende la parola e dice in ginocchio dei meridionali, sei un troglodita. Che l'ho detto, non è normale, ma sa, a me, voglio dire, ne hanno detto talmente anche tante su di me che non ti curare di loro, ma guarda e passa. Ma non è che sia anche il pensiero scivola di Berlusconi alla fine questo? Cioè, voglio dire, ognuno dica quello che vuole, poi c'è chi ha. Ma, cioè, ma che titoli? Segno, che cara, chi non lascia, viene... a me non lasciano segno le cattiverie. Sì, ma non le viene il sospetto? Non le viene il sospetto che quelle siano le parole anche di, cioè il pensiero di Berlusconi? Pronto? Cioè, il Salvini trova... anche il pensiero di Berlusconi. Ma io guardo, ho conosciuto e continuo a conoscere un Berlusconi che è stato il più grande federatore della Repubblica, della storia della Repubblica italiana. Dunque? Ha messo insieme ciò che insieme non stava: fascisti, fascisti, democristiani, liberali, dunque? Repubblicani, tutto quanto. Per cui voglio dire, a me piace che Berlusconi faccia Berlusconi. Sì. Dunque, no, ma da questo d'accordo in generale, no? Dunque, secondo me è stato un errore di Berlusconi non scegliere, e cioè scegliere di stare da soli su Bertolaso. Berlusconi poteva scegliere Marchino, Salvini e Meloni, erano visioni diverse, ma erano due visioni. Io trovo che stare da soli sia un errore. Bertolaso, per me sia un errore. Per me è un errore. Dunque, tu, se fossi a Roma, chi, è sbagliato. Se fossi a Roma, chi voteresti, Daniele? Ma guardi, se non ci fosse la campagna elettorale, con questo riesce soltanto a Renzi, ritengo che Bertolaso sarebbe un ottimo sindaco. Vabbè, sì. Ma però oggi... siccome deve fare la campagna elettorale, no, io devo dire, cioè che tu chi voteresti? La Meloni? Non sono a Roma, ma voto a Milano. Ma d'accordo, ma chi voteresti a Roma? Dire, non riesco a fare questo esempio. Meloni, no, voterebbe, Meloni avrei sicuro. Avrei voluto che Forza Italia... Avrei voluto, ormai non si può fare. Come io non sono per l'inclusione da panico, sono per l'esclusione, non sono per l'inclusione della paura di vincere. Avrei avuto piacere, avrei voluto che il leader, che Berlusconi, il più grande... Andasse sulla Meloni, esatto. E dunque tu voteresti la Meloni a Roma, se fossi a Roma? Non lo so. Quando decido di essere di Forza Italia, sono di Forza Italia. Vabbè, che c'entra? Ormai una marea di gente di Forza Italia voterà la Meloni. Come sto facendo? A, non devo votare a Roma. B, sono di Forza Italia e quindi voglio dire, sin quando decido che quella è la mia casa... Ecco, ma su queste cose qui, Berlusconi non dovrebbe dire alla Pascale di stare zitta su queste questioni qua? Cioè non dovrebbe dire, guarda, non puoi, cioè, dovrebbe essere Berlusconi che dice queste sono questioni politiche importanti, non è che puoi dare del troglodita a un mio alleato, no? In teoria alleato, o no? Ma conoscendo quanto è tollerante Berlusconi, che non l'ho mai sentito dire a nessuno stai a ordinare qualcosa, mi viene difficile immaginare Presidente Berlusconi che dica che ci sia stato. Però lo dovrebbe fare? Però fa danni questa cosa. Ma non dovrebbe farlo, no, secondo me non dovrebbe farlo. E lei no. Ha titoli per dare del troglodita a Salvini? A qualsiasi cittadino ha il diritto di parlare, non sono mica per mettere il bavaglio ai cittadini. No, d'accordo, però politicamente cioè tutti uno... i cittadini possono esprimersi. Sì, d'accordo, lei non, sta esprimendo, non è una cittadina qualunque, no? Non è una cittadina qualunque. Beh, è una cittadina, non ha ruoli politici, non ha incarichi politici, è una cittadina. Beh, non è una cittadina, non è un passante, non è un passante, voglio ricordare. Ma io rispetto per i passanti perché sono cittadini. No, ma un passante nel senso non è una persona qualsiasi, no, cioè è una persona. Scusa, se è ci fosse un cittadino che giustamente dire le sue opinioni. Sì. Sentiamo tante cazzate dette da tutti. Cioè, ti dici cazzata più, cazzata meno? No, non voglio dire io. È una cazzata. No, dico, sentiamo tante cazzate, sì. Esprimere le proprie le proprie convinzioni. No, ma è giusto, sentiamo tante cazzate. Cioè. Ogni cittadino può dire la sua. Anche cazzate. Senti, ma a Roma, se ci fosse un ballottaggio tra Giachetti e la Raggi, ecco, no? La Raggi potrebbe tu chi voteresti? No, mettiamo che... Escludo che Giachetti vada al ballottaggio. Vabbè, ma questo d'accordo. Se mettiamo un ballottaggio Raggi-Meloni... Vabbè, quello vabbè. Un ballottaggio Giachetti-Raggi. Chi ma potresti? Non riesco a fare questo esercizio. Ma invece è molto probabile che possa accadere, diciamo. In questo momento è probabile che ma possa io accadere. Io sto con le donne, se devo dire la verità. Ah, per cui voteresti la Raggi? Beh, io sto con le donne. Beh, in questo caso potresti la Raggi allora. Cioè, anche perché credo che le donne in fatto di pulizie siamo più esperte. Ed infatti vengono meglio le pulizie. Le pulizie, Sì, in che le senso? Donne siamo più esperte perché sappiamo pulire molto bene. Cominciamo da piccole a imparare a pulire la casa. Lì c'è da pulire la città che è la casa dei romani. Per cui credo che a una donna verrebbe meglio rispetto a un uomo. Vi vedo un po' indietro. Cioè per cui tra Raggi e Giachetti alla fine la Raggi perché pulirebbe meglio Roma. Perché c'è bisogno di fare una tale pulizia che altro che le pulizie di Pasqua, parlo da casalinga, certo, quindi le donne le trovo che sono migliori da questo punto di vista. Senti una cosa, ma per chiudere, ma c'è stato un momento di crisi in questa vicenda con Sallusti, sì o no? C'è stato, adesso seriamente sto parlando, c'è stato un ma momento nella di... vita, voglio dire, le crisi ci sono tutti i giorni, Per cui c'è stato un momento di crisi adesso, recentemente? No, adesso, non è adesso c'è stato un momento di crisi. La vita è fatta così, di alti, di bassi. Appunto. Di gioia, di dolore. Avete recuperato allora? Di piaceri e di sofferenze. Vabbè, questo in generale. Mi sembra che se uno compra il libro si dà delle risposte. Ma ti sposi o no? No, non mi sposerò mai. Non ti sposerai mai. Mi sono sposata una volta e sono stata contenta, è stata un'esperienza positiva, lo rifarei. Ma è finito. C'è una cosa che per me è fondamentale: il matrimonio è un contratto e l'amore non è un bene disponibile. Questo è il contratto, sono d'accordo con te. Senti, un'ultima cosa: l'amore non è un bene disponibile. Sì, sì, d'accordo. Non si può mettere sotto contratto, cioè, tutta la vita. Non si può mettere. Perché non è detto che l'amore non è una cosa che si ordina. Sì, sì, assolutamente. Senti, che ne pensi di uno italiano che si converte all'Islam? Cioè di un convertito all'Islam? Che ne pensi? Io ho detto che sono matti i convertiti all'Islam, però. Anch'io penso che siano dei pazzi. Sono dei pazzi, cioè uno che nasce, tutti, cresce in Italia e poi si converte all'Islam, qualcosa nel cervello. C'è qualcosa che non funziona. Nel cervello, eh. Ciao, Daniel. Ma non funziona vedendo le cose della vita, che non funziona perché dovrebbe conoscere bene quella religione, dovrebbe capire che non c'è separazione tra la religione. Per cui c'è qualche, qualche rotella che non funziona. Sharia, dovrebbe sapere il poco rispetto che hanno per le donne. Dunque c'è il dovrebbe cervello. Dovrebbe sapere tutte queste cose. Non è che non funziona, c'è qualcosa che non ha funzionato la sua esperienza da italiano. Ciao, grazie. Grazie. Ciao. Cruciani, stai senza pensieri. La Zanzara. L'Inter ha nella bacheca uno scudetto di merda e di cartone, ma questo non è nulla di fanatico. Beh, di è merda. Una cosa di fatto. Di merda, di merda. Di io merda sono d'accordo. E di cartone. Io sono arrivati a 15 punti quell'anno e poi sono stati riconosciuti colpevoli anche loro di telefonate ed era un reato caduto in prescrizione. Se non è merda e cartone questo. Mughini. Che c'è? Chi c'è che ha chiamato? Che cos'è che mi fate dei segnali strani? Chi c'è? Chi? Alan, quello là di ieri, Alan Friedman. Avrà chiamato. No, non è Alan Friedman, è il là, quello dei froci, là, il musulmano, il convertito, là. Alan, che vuole? Che vuoi, Alan? Io non sono convertito, ripeto, un'altra volta. Oddio, io sono tornato. Sei caro. Tornato all'Islam, ma sì, vabbè, sì, sei tornato lì. Cruciani, tu c'hai una rotella che non funziona, c'hai un sacco di rotelle che non funzionano, amico mio. Mi dispiace, ma io vabbè, che sono vuoi ancora? Avanti. Cosa vuoi ancora? Io sono molto avanti di fronte a lei. Ma che sei molto avanti? E confronta la massa sua, sì, che vuole far convincere con tutte le sue storiette di puttane, puli di cose, eh? Che Alan, sono cosa vuoi? Cosa vuoi? Dimmi. Ah, volevo dirlo, guarda, io ho scoperto per chi lavora lei. Sì, per chi lavoro? Per la chi lavora? Agenda. Sì, per chi lavora? Finanziato da Confindustria. Beh, questo si sapeva già, è evidente. Il divino si parla, Telma, si parla di froci, sì, di froci. Sì. Ormai la famiglia, non se ne parla più di famiglia, di bimbi. Sì. Eh? Ma che c'entra Confindustria? È normale parlare solo... dare i figli ai froci, hai capito? Ma cosa c'entra Confindustria? Accelerare l'avvenuto dell'anticristo. Sì. Questo ma chi è quella che suggerisce? Naturale, secondo lei? Ma non è il progetto naturale, no, io non sono di questa partita, ah, amico mio, no, hai non capito? È questo. Ma scusi, ma Alan però non è un cognome musulmano, non è un nome musulmano. Come dicono i massoni, la massoneria, dell'anticristo. Ma che c'entra Confindustria? Okay. Che c'entra Confindustria? Sono molto avanti, Crociani. Sei molto avanti, sì, sei molto avanti nella lista di, per entrare al nosocomio. Sì, sì. Bravo, certo, in quella esatto, lista lì, avanti, sei avantissimo, molto è in testa proprio, è tra i primi. Dai, Alan, su, sì, cosa volevi senti di nuovo? Senti Israele che parla dell'altra parte. Senti Israele, poi. Sì. Senti Israele sì. Alan, che diavolo vuoi? Convertito che all'Islam? Cosa vuole? Testa bacata no, di convertito, Alan. Convertito no, io sono musulmano, tornato. Ha tornato, anche convertito. Ritornato. Sì, no, vabbè, sì, è tornato. No, okay. Torna, il ritornante. Che sì, fastidio sì, ti dà se uno torna? Torna, ma quella torna, via, infatti, riparte. Lasciamolo tornare, chissà. Lascialo tornare, chissà. Sì, come infatti ha scelto Mohammed Ali, come ha scelto Cat Stevens di tornare nell'Islam. Sì, certo. Michael Jackson prima di essere ucciso. Ucciso, Michael Jackson è stato ucciso. Dal Mossad, probabilmente. La figlia di George Bush. Sono tutti matti questi, no? Scusa, Michael sono Jackson è adesso Michael un Jackson 1.600.000.000 di persone musulmani sulla terra sono tutti dei coglioni. No, io non ho detto questo. Sono tutti dei coglioni terroristi poi, no? Io ho detto un'altra cosa, che quelli che tornano, che io chiamo convertiti, sono dei bagati mentali, su questo non c'è dubbio, c'è qualcosa nel cervello che non ha funzionato, amico mio. Infatti le prove sono quello che dici tu. Ah sì? Sì. Ah, io sì. Sono, quanti figli hai, siamo... Alan? Quanti figli hai? Io ne ho tre. Sì. E ho intenzione tre... di fare altri. Sì, questo vabbè, benissimo. Questo per carità. Quanti anni? C'è qualche sì, maschio? C'è qualche maschio? La percentuale delle nascite in Italia. C'è qualche maschio nella siccome tua... fra 10 anni saremo 30 vabbè. Milioni di pensionati. Sì. Ho visto, ma poi ho visto anche sotto? Notato anche la moglie che suggerisce che la stra maggioranza delle coppie sì. giovani italiani adesso in giro tutti hanno un cani, hai capito, a guinzaglio, ok? E beh, che c'è anche scrivere i testi la moglie. Società beh, o magari sì? diventare o froci o lesbiche. Ma che c'entra, Alan? Cosa c'entra? Ma io sono sicuro che tra i tuoi questa figli... Questa è la normalità, Crociani, la tua normalità. Sono sicuro che tra i tuoi la figli... La società di cui vuoi stare tu, vuoi sì. stare tu in questa società. Sì. No? Senti, Alan, io sono sicuro che tu, tra i tuoi figli, qualche omosessuale c'è, qualche gay c'è tra i tuoi figli. Cosa? Se, tra i tuoi figli qualcuno è sicuramente gay. No, mi dispiace. Sì, mi amico dispiace. Mio, sì. Questo sì. è il tuo sogno. No, non è il mio sogno, non me ne frega niente. La figlia da grande sarà una lesbica. E vabbè, se sarà perché lesbica, al padre, pazienza. Al padre così, ma io no. Tu no, non, no. E se uno fosse gay, uno dei tuoi figli fosse gay omosessuale, che lo succede? Lo curerò, come ho ben detto ieri sera. Sarà curato, portato in una poveresti struttura. Ragazzi, portato in una struttura. Bella terapia, hai capito? Una bella terapia. Poveretti sì, certo, ragazzi, una bella terapia. E tua moglie è d'accordo con questa cosa? Mia moglie? Sì. Te la passo, è una professoressa universitaria. Pure. Non è una cogliona qualsiasi. Beh, insomma, voglio dire, cioè, adesso, ci sono tanti professori universitari che sono degli imbecilli e dei coglioni. Ci sono tanti professori. Buonasera. Dimmi, ma tu sei italiana? Salve. Sei italiana? Italianissimo. Anche tu sei tornata all'Islam? Certo che sì. Sei tornata all'Islam pure tu, eh? Certo che sì. Cioè, ma che ti ha detto il cervello a un certo punto? Spiegami. Come è nato anche tu? Che ti ha detto? Scusa. Il cervello, che ti ha detto a un certo punto? Perché hai aderito a lì? No, non è un discorso di cervello. Cosa mi ha detto? Sì, m'ha fatto ragionare. Ti ha fatto ragionare m'ha fatto pensare. E sei tornata all'Islam. Ti ha fatto radicare a qualcosa che invece la stragrande maggioranza della gente non ha dentro di sé, e non chi, è radicata. E chi non crede all'Islam? Sì, e chi non crede all'Islam, chi non che crede cos'è? L'Islam si attacca al tram. Si attacca al tram, cioè che cos'è? Non è che, voglio dire, non è una cosa che tutti sono obbligati a fare, ci mancherebbe altro. Beh, no, libero. Voi li pensate che sono degli infedeli, insomma, delle persone da convertire? No, io non penso assolutamente che siano. Non ecco, ma perché tuo marito parla di froci? Parla di froci. Perché lei come li vuole definire? Mi faccia capire. No, ma ho capito in questo senso così. Froci, gay. Ecco. Guarda, stai attenta che tu... cambia molto poco, dai. Penso che il succo del discorso sia sempre quello. Stai attenta perché nella tua famiglia ci potrebbe essere qualche figlio che già è avviato verso questa strada dell'omosessualità, eh? Attenzione, molto attenta. Io personalmente non credo proprio, però se lei mi dice nella sua famiglia ci potrebbe essere... Ci sarà. E secondo lei perché ci sarà? Perché lei prevede? No, ma ci sarà, è la percentuale, è una questione di statistica. È una questione di statistica. Ho capito, una questione. Va bene, di ragazzi, della statistica. Non avete... Noi avremo un figlio frocio su quattro che ne abbiamo. Beh, molto probabile. La proporzione. È molto probabile. Se io faccio quattro figli, su quattro figli, sa, uno mi potrebbe anche venire frocio. Per colpa mia. Ma sicuramente non per l'insegnamento che gli passiamo per colpa noi. Per colpa mia, certo. No, per colpa della gente e della società in cui viviamo. Perché è una società perversa. Che è normale dare in adozione dei figli a una coppia gay o lesbica che sia. Lei mi dica che messaggio passiamo ai nostri figli. Beh, è un messaggio devastante. Fermi tutti, mi avete rotto i coglioni, ciao. Più Natania, meno Parenzo. Più Natania, meno Parenzo. La Zanzara. Volevo dire la mia riguardo a tradimento e dimagrimento. 8 mesi d'amore, 10 kg persi. Amore clandestino. Mario Vicenza, vai Mario. Sì, salve, buonasera Cruciani, salve. Dimmi, vai. Niente, io volevo dire se qualcuno poteva dire al vostro ospite di prima a riguardo di Maradona che professa Vangelo. Sì. Quello era Albino che diceva, uno super tifoso del Napoli, speaker radiofonico, che diceva quello che dice Maradona è Vangelo. Capito? Ho capito. Allora? Secondo me il Vangelo è quello che dice Mughini, non un vabbè, cocainomane. D'accordo. Ah, non un, un cocainomane. Esatto, vabbè, adesso non è che adesso un cocainomane. Io quando una persona parla, che me ne frega se si è fatto di cocaina o no. Poi non risulta più essere cocainomane, Maradona. Ho capito. È stato cocainomane, è stato cocainomane, d'accordo? Lo è tuttora, questo non risulta, amico mio, dai. È il fatto di una persona che non può mettere piede in Italia, che come scendi dall'aereo ti arrestano. Ma è un po' cambiata la storia. Comunque, certo, ho ancora un debito con il fisco. Grazie, Nassab, Reggio Emilia, vai. Senti. Dimmi, Nassab, dimmi. Ascolta, ma proprio io ti ammiro come personaggio. Però prima parlavi della Juventus, tutto quanto, poi hai virato verso l'Islam. Sì. Che cazzo stai dicendo? Stai parlando che è un matto di cervello quello che si converti? No. Assolutamente sì. Tu sei un convertito pure tu? No, io sono musulmano. Io ho detto chi è cresciuto in questa cultura, sì, in Italia, allora, eccetera, che a un certo punto, a 20, 30 anni, 40, ci sono dei casi, sì, anche a 50 anni, sì, e si converte all'Islam, secondo me c'è qualcosa nel cervello che non funziona, qualche rotella che non funziona. Non c'è connesso, secondo me, non lo so. Perché? Cosa c'ha l'Islam? Io ti ammiro se mi parli di terroristi, ti do una mano, ti do la benzina. Ma non c'entra niente, ragazzi, su, capito, ma come si fa, ad aderire all'Islam? Con l'Islam, non lo so. No, ragazzi, se vi piace così, se vi sembra normale che uno a 30 anni cresce... Ma uno che male c'è, si può convertire, no? Non riesco mica a seguirci, non so. Per Parenzo è normale che uno a 30 anni in Italia è cresciuto... di vita, ma che c'entra? Ma come tu, qualcuno che diventa vegano improvvisamente, un altro torna all'Islam, è diverso, perché quella è una cosa alimentare. Poi certo, se si converte al nazi veganesimo è un'altra cosa. Nassab, dai, non mi puoi convincere mai che sia una cosa che non ha a che fare con qualche rotella del cervello. Tu l'hai cambiato nel corso degli anni, sì, ma non è che ho aderito all'Islam, dai, no, su, però cioè... hai cambiato alcune tue abitudini, ti lavi molto meno, sì, no, mi lavo un po' meno, sì, mi lavo appunto, un po' meno, ma non mi sono mai lavato in realtà, ma non c'entra niente, dai, questo, su, dai, ho capito, ma lo so. Lui ha scoperto, ciao, Nassab, ciao. Luigi Cesena, vai. Luigi, dimmi. Sdrammatizziamo un po' sull'Islam e torno un attimo sulla visita urologica di Parenzo. Di Parenzo, che non vuole farsi mettere il dito nel culo. Mai trovato d'accordo, però devo questa volta purtroppo ammettere che ha fatto bene a non farsi mettere il dito perché nel non culo. Serve a niente, dici. Perché vedi, a me 20 anni io non l'ho detto così, ma... mi misero. Beh, sì, fatto capire, però. E per 20 anni mi sono fumato un pacchetto di sigarette. No, spiegami sta cosa, non ho capito bene. Quindi, no, ho detto che Cruciani, che Parenzo, ha fatto bene a non farsi mettere un dito nel culo. Perché a me, però... molti anni fa... Hai detto così tu, non no, è che l'ho detto no, io. No, ho fatto, diciamo, non ho parlato esplicitamente della pratica. Ma è quella la storia, cioè non è un'altra. Non ha voluto che venisse... sentito, tastata. Vabbè, invece a te che cosa è successo? Non ho capito. Perché ha fatto bene, perché vedi, lui già che ha una certa predisposizione, deve tener conto che del fatto scusi, che predisposizione a me perché cosa? Una sigaretta in bocca e io per 20 anni ho fumato un pacchetto. Cioè, non ho di capito perché secondo te ha fatto bene perché altrimenti poteva piacergli? È lo stesso discorso. Capisci? Ma no, non mi pare che lui ha. Non mi pare che Parenzo questo abbia... è simpatico perché ha la voce da idiota ed è anche davvero un idiota, però è simpatico, quindi dei rischi, ha evitato di correre un rischio, sì, certo. Bravo, importante, capito? Volevo anche dire, lei è sposato? Idiota. Vedi, volevo dire, lei è sposato? Aspetta Luigi. Pronto? Luigi, lei è sposato? Sì, sposatissimo, e guarda la cura della prostata, io 10 anni più di... No, non è per quello che dico. Lei non è ancora arrivato a casa, vero? Dice scopa 3 volte a settimana. Lei non è ancora arrivato a casa. La prostata vedrai che non è... Sì, bene. Adesso vedo che per te è una pratica forse un po' difficile. No, dico, lei non chiama da casa però in questo momento, vero? Perché qual è il problema? No, chiedo, non chiama da casa. Non posso chiamare da casa, perché qual è il problema? No, secondo me sta chiamando... È a casa o chiama da fuori casa? No, io... sono in macchina, ma potevo fare esattamente no, casa, questo spiega tutto. Qual è il problema? No, perché in questo momento a casa sua si stanno divertendo. In questo momento a casa sua si stanno divertendo e stanno facendo il trenino, facendo la prova della prostata con sua moglie. Guarda, non ho problemi. Volevo dirti benissimo. Magari gli piace pure. Dato che ti ho il telefono, volevo dirti un'altra cosa. Questo te lo volevo quindi non torni subito, perché altrimenti li disturba, allora, capito? Non ti preoccupare. Continua a rimanere al telefono con noi a sparare sciocchezze. Tu pensa, almeno fa divertire un po' quella povera donna. Su questo non ho dei pensieri. No, benissimo, è contenta lei del... Mi posso parlare un attimo? Se uno è contento che la moglie fa le gangbang, va bene, benissimo. Io sono... Pronto? Sì, prontissimo. Ma lo stai siamo dicendo qua. Tu che mia moglie fa qualcosa? No, ho detto, lei ha detto che è felice. Come non sono scalfito dal dubbio, non ho nessun pensiero. Però non avere dubbi può essere deleterio in qualche caso. Allora, però dico così in generale. Sottovaluto il problema, dai. Vabbè, allora? Ma volevo dire una cosa se un po' più seria a Parenzo, dato che ho preso la linea. Sì. Che vedi, quando si parla, a me la settimana scorsa mi hanno rubato la macchina dal garage, non per la strada, e sono andati a sfondare una banca per portare via il banco. No? Anche. Mi hanno detto la polizia, perché con le telecamere, che è una banda di rom che sta facendo questo. Io ho detto, ma a me la macchina me l'hanno distrutta. Dico, ma una volta non lo facevano con la bomboletta del gas? Ah, dice, sa, sanno benissimo che se fanno saltare per aria un banco, ma con la bomboletta del gas è uso d'esplosivo, la pena è molto maggiore. Vabbè, allora? Mentre se fanno una sfondano con la banca è scasso e la pena è molto inferiore. Quindi questi conoscono. Intanto hanno una conoscenza del territorio incredibile, perché vanno in un garage che sanno che... Interessante questo, molto. Vabbè, ma hai rotto i coglioni. Ciao. Un po' di Radio Padania, che dici? Il meglio e il peggio di Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guardavano. Ascoltatori scatenati, sentite. Servi di Roma fuori. Che questa gente che ha impestato casa nostra, impestato, perché vengono qui, defecano nei giardini, pisciano, bivaccano, sporcano, impestano, degradano, e non puoi dirlo. Ti offendono, hai capito? Loro ti disfano le città, ti riportano indietro di 10 secoli, ma loro si offendono se tu ti incazzi. Sali Padania. Senti questo contro la Pascale, questo è buono, senti. Guarda, questa gente qui deve fare solo una cosa. Loro e sai chi? La badante del plastificato, che ha scritto quello che ha scritto su Salvini. Sai cosa devono fare? Andare al cesso, abbracciare il Watercross e cantare Non son degno di te. Questo devo dire che è un tocco di genialità. Pazzesco. La badante del plastificato, cioè la Pascale, deve abbracciare un cesso e cantare Non son degno di te. Bellissimo. Servi di Roma fuori. A me, a 10 metri di distanza, in una casa, hanno ficcato 10-15 immigrati. Chissà come mai l'altro ieri si sono incominciati a vedere, non è mai successo, si sono cominciati a vedere i topi, va bene? I topi, signori, proprio perché è il degrado. Guida il popolo nella tempesta come una madre e il figlio. Caccia oltre il fiume il potere falso che ci spreme. Io vorrei chiudere però con Barin. Alla Zanzara no, parlano di... No, Barin. Gli amici della Zanzara e devono parlare di culi, di tette, di figa, di peli, eccetera. Altrimenti la Zanzara non la sente più nessuno. Noi basta parlare dei problemi della gente. La Zanzara sono le nostre 2 ore e mezzo di libertà quotidiane. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Il giudice sportivo ha detto che non eravate affatto gli onesti, ma che era prescritto il reato. Lo dice la giustizia e per me conta quello, basta. Appunto, la giustizia ha detto questo, che era prescritto il reato. Lo scudetto ce l'ho a casa, bello, e me lo tengo stretto. Beh, se lei si accontenta di uno scudetto di merda e di cartone, no, io che ci posso fare? No. Adesso dai, ci posso fare, voglio dire, adesso no, ma lei è un grande campione, Cordoba. Non capisco cosa se ne faccia di quello scudetto. Io con con noi Alba Parietti. Ciao Alba. Ciao, come state? Bene tesoro. Bene, io sono molto, sono Parenzo c'ha mal di gola. Io sono molto contento di questa notizia che è arrivata. Sono molto molto contento. Qual, devo quale dire, notizia? È arrivata una notizia, non so attraverso cosa, certo, che tu praticamente la storia tra te e Christopher, com'è che lo chiamano? Ah, allora attraverso chi? Che domani esce con un'unica intervista esclusiva, perché è l'unica volta che parlerò e che parlo, perché ho parlato, per cui domani ti devi comprare il giornale. Compriamo se libri e giornali. Libri e giornali. Così sai tutto della mia vita e sai se possiamo riprendere a non vederci. Vi siete lasciati o no? Sì. Allora, innanzitutto ridere su una storia d'amore è brutto, no? Se non fosse che poi sono cose che possono capitare a tutti. Però perché non ti compri domani a carta e spendi? Ragazzi, però io adesso oggi chiudo la trasmissione. Soldi. No, ma non me ne frega niente, ti sto facendo una domanda. Non ieri le ho potute dosare e quello è l'errore che non vorrei fare stasera. Allora, siccome si parla comunque di sentimenti, cose che tu non conosci, io voglio, perché devi andare subito all'attacco? Ti sto facendo una domanda. Tu puoi rispondere come ti pare. Ti sto facendo una domanda molto semplice. Sì. Non mi risponde, comprate il giornale, sennò chiudiamo la telefonata. No, io ti sto dicendo un'altra cosa. Allora, ti sto la storia una è una domanda normale. Ho evitato di parlarne in altre situazioni per il semplice fatto che su queste cose è meglio scrivere. Va bene, è scritto, d'accordo. Perché dosi le parole, hai capito? D'accordo. Le parole non va bene, ma adesso quello che se l'ha scritto vuol dire che è finito, no? Cosa? È finita la storia o no? Vuol dire, sennò uno non è che cosa. Allora, io e Christophe abbiamo ci conosciamo da 20 rotti anni, una persona a cui voglio bene, vorrò bene tutta la vita. I sentimenti delle persone possono cambiare forma, nel senso che una persona a cui continuerò a volere bene, abbiamo sperato, come ho detto a chi, di avere, di rivivere un grande amore, non è andata, che c'era stato, e probabilmente come tutte le persone, come ho già detto e ripeto anche a te, questa è l'unica cosa che ti dirò, poi parliamo di cazzate, e magari anche queste sono cazzate, voglio dire, dipende da chi le vive, e uno pensa magari di poter rivivere un grande amore perché l'ha vissuto, eccetera, eccetera, e poi si accorge, e giustamente non ha più voglia di prendere in giro neanche se stesso, neanche la gente. Noi avremmo dovuto andare da Giletti a parlare della nostra storia, per esempio il 1° maggio, tutto cosa molto che riservato, con Massimo abbiamo evitato di fare, proprio perché non era gossip, ma era, era anche gossip, però era una storia vera che non ha funzionato. Ha funzionato. Quindi tu hai delle speranze? Beh, ho delle speranze ancora dunque. Ma certo, possiamo continuare a non vederci come abbiamo fatto fino adesso, però passare da Lambert a Cruciani, diciamo, è una discesa nell'abisso. No, dico passare da Christopher Lambert a Cruciani. Ma guarda, voglio dire, alle volte l'amore è cieco, voglio dire. Appunto. No, non sto scherzando, ma dai, adesso non dire così di Cruciani, perché Cruciani è un figo, no? Tutti lo sanno che è un gran figo. Io l'altro giorno l'ho visto con Pupo, eri con Pupo, non mi ricordo. Sì, come no, certo. E ho detto ammazza che sto figo, poi ho guardato, era Cruciani, ho detto no, mi sono sbagliata. No, invece ero io. Invece era Pupo. Comunque, ho ancora qualche speranza. No, diciamo. Ma certo, ma ti sento, hai una voce quasi romantica. No, ho una voce romantica perché mi si è riaccesa la fiammella, capito? Mi perché si è un po' tu riaccesa. Sei un narciso, e come tutti i narcisi, tutto ciò che oramai invecchieremo. Ma era già segnato, era già segnato. Arrivati alla frutta tutte e due. Assolutamente. Siamo vecchi tutte e due. Assolutamente. E questo fatto che non è mai successo niente, perché tu essendo un narciso, più uno ti nega potrei essere. No, veramente non ti sei mai negata. Io perché non ti sei mai negata, perché io non mi sono mai proposto. Questo è, ma tu ti proponi sempre. Io non perché ho, tu sei un narciso e fai non il mi sono specchio delle mie brame. Mai donne, non, che è la più bella del non mi sono mai proposto. Basta non dirti che sei tu e tu già vai in crisi. Non mi sono mai proposto, per ma cui non è... perché non parla? Per via del mal di gola? No, perché parli sempre perché te. Capisco, condivido l'analisi della compagna Parietti, ed effettivamente è un narcisista egotico che quando viene rifiutato rimuove l'ostacolo, capito? Come tutti gli come tutti i narcisi, perché spieghiamo che il narcisista, lo spieghiamo anche alle donne. Comunque ero come illudono che gli uomini che le ricercano per mille volte, poi diceva perché mi ha ricercato, poi è scappato, tipo Cruciani. Sì. Ma non è successo con me, però, perché scusa, io ho individuato subito il soggetto pericoloso. Ma non c'è mai stata l'occasione, questo è il punto. No, non c'è mai perché tu ti sei scappato, Cruciani, diciamo le cose come quando stanno. Sono scappato? Ma ti stai inventando tutto. Sotto, parliamoci chiaro. Ma ti stai inventando tutto, non sono affatto scappato. Ma sì, perché tu c'hai paura di una... Ma io ho battuto solo Lucarelli ti ha dato. Ma perché tu sei ossessionata? Ma perché tu sei ossessionata? Ma tu sei ossessionante, questo è il punto, perché probabilmente tu lo è, sei una che vuole un rapporto di quelli che 40 messaggi al giorno. No, amore, no, no, ti come sbagli, no? Perché Christophe è una persona che di messaggi ma l'avrai massacrato, tanti, l'avrai massacrato, poveraccio. L'avrai massacrato. Comprati chi? Oddio, basta! Ma non è che sto facendo la campagna pubblicitaria, perché non ma voglio chi se ne frega di chi? Fraintesa, hai capito? Non voglio dire cose che poi vengano fraintese tu, da ma te. Ma chi se ne frega? A me non me ne frega con niente. Le frittate, ragazzi, hai capito cosa voglio chiudo, dire? Adesso allora, chiudo la telefonata perché mi avete rotto le scatole con queste ma cose qua. Perché mi avete rotto le scatole? Basta, hai detto quello che dovevi dire, basta. Che è questa cosa di girare le frittate, eccetera? Basta con ma questa cosa storia. Ti preso? Una botta di gelosia. Ma quale botta di gelosia? Falla finita, dai, ma su. Ma tu ti stai ingelosendo? Ma quale, quando mai? Ma che geloso, che me ne frega? Sofferto. Ma che sofferto di chi? Di cosa? Hai sofferto cosa? Che specchio specchio delle mie brave non ti diceva. Senti, che eri più bello del reale. Ma figura che me ne frega a me, ma tu puoi andare con chiunque, che me ne davvero? Frega a me. Ma con chiunque, guarda. Ma con chiunque? Con chiunque. Sì, però chiunque, il tono sembra arrabbiato, con chiunque, con chiunque puoi andare. Senti, scusa, chiedo una cosa, scusa, spostati un secondo. Dimmi. Ma Renzucchero con lo schifo che tu sì, conosci bene. Sembra arrabbiato, cosa sembra un non po' sono offeso. Arrabbiato. Che cazzo me ne frega di citare ogni volta chi? Ma cosa gli hai preso? No, sembra un po' offeso, urtato nella sua sensibilità. Nel ma suo non lo so fatto? Ragazzi, perché se tu l'hai no l'hai ma non è quello cuore, non, non c'entra niente, non c'entra niente, ma che è successo? Non mi è successo nulla, mi avete scocciato tutti. Ma non qualcosa. È vero, ma con chi hai litigato oggi? Non ho litigato con nessuno. Dimmi, hai visto non ho litigato con nessuno. Ma come abbiamo condiviso così tante battaglie, quella con i vegani, contro i vegani, quella contro non so che cosa, la prendi tutti i giorni con qualcuno. Sì, adesso cosa ho fatto che non ti piace? Ma non hai fatto nulla. Senti che voce straordinaria. Non hai fatto nulla, mi devi smettere di citare giornali di cui non me ne frega assolutamente nulla. Ma no, perché non me ne frega nulla, capito? Non me ne frega niente. Va bene, parliamo di una. E allora, non me ne frega niente di citare i giornali, non me ne frega nulla delle interviste, nulla, niente di niente. Allora, vuoi fare un'intervista tu, fammela. No, ti sto chiedendo un'altra cosa. Hai visto l'incontro da Trump e Salvini? La Trump e sì, Salvini? No, la Trump, Trump, Donald Trump, sai chi è Donald Trump? Donald Trump si è incontrato con Salvini? Sì, si è incontrato con Salvini. Ma questo quando è avvenuto? Ieri. Ma io mi sono persa una cosa, ma dove è successo, scusami? Su Twitter è successo, cioè è successo in America, però è stato su Twitter. E Salvini, cazzo chissà di che cosa la foto parlato? Su Twitter. Ma che siete impazziti, la foto su Twitter, la foto è ovunque, non su Twitter. Io che cazzo c'entra Twitter? A vedere la Twitter piace lei? Trump? A me moltissimo, sì. Cioè, a te piace moltissimo Trump? Io sì. Non ho questo sospetto. Mi piace moltissimo Trump. E anche certo. Salvini? Ma no, mi piace Salvini, no, sì. Ma no, alcune cose sì, altre no di Salvini, cioè non è non ma che come la vedi questo incontro tra due, il parrucchinato e il felpato? Allora io trovo che Trump sia una delle cose più oscene, come di oscene, no, proprio Pop. Non ci posso pensare. Ma non ci posso pensare perché quando io sento i discorsi di Trump mi preoccupo, perché gli americani non possono passare da Obama a Trump, perché questo è veramente preoccupante, cioè magari, neanche pensarci. Ma il pensiero di Trump a me mi inquieta, perché non è possibile. Perché come lo trovi? Osceno, brutto? Gusto come anche lo trovi? Pensare che uno si possa candidare, ma per il semplice fatto che al di là di tutto... Ma come lo trovi lui? Pochi, perché non è neanche un messaggio come lo trovi, di Trump? Di destra, fascista, non è niente. Non è niente. È niente. Ma come votare fisicamente. Illudendosi di votare perché gli americani che votano Trump votano pensando che salvi non si capisce cosa l'economia. Ma com'è possibile? Vabbè, ma fisicamente come lo trovi? Ma gli fa la schifo. Come lo trovo fisicamente Trump? Trump. Ma c'è bisogno che te lo dica? Che ne so, repellente, che ne ma so. Ma no, vuoi dirlo tu, te lo no, dillo tu, come lo trovi? Non posso prendere nemmeno in considerazione. Cioè nemmeno se fosse l'ultimo l'uomo sulla faccia della terra, signor Trump. Vai a vedere Il Confessore. Ti piace questo? Vai a vedere Il Confessore, che è un bellissimo film che ho visto l'altra sera di Andò. E veramente mi piacerebbe che la gente, quando sente i discorsi di Trump, si facesse un'analisi. A chi piace Trump deve veramente farsi un'analisi di coscienza, un'analisi totale, mentale. Perché vuol dire che non ha più né anima e né coscienza. Ma guarda, Trump Salvini, che cos'è? Una coppia dell'orrore? Ma Salvini, tu vuoi farmi riprendere una coppia dell'orrore? Una coppia dell'orrore? 15.000 cause, ma io non voglio eccetera, fare niente. Ti ho fatto una domanda. La coppia Trump Salvini, come la vedi? Inquietante. Ma che è? Voglio farmi dire, vuoi fare questo, tu vuoi, eccetera. Cioè, ma basta con sta storia, Cioè, cosa? Ma che? Niente. Ma cosa? Io tutto sai, voglio dire, è pronto? Tutto a posto. No, vorrei sapere. Ti piacciono, che ti piacciono gli uomini? Ti piacciono gli uomini che si lavano poco? Guarda, ci parli di te? Ma sì, anche. Ma non è la cosa che mi dà fastidio di più in assoluto. A me la cosa che mi dà fastidio più di un uomo è che non abbia un'etica, che non abbia una morale, e attenzione, e che non abbia un'anima. Non e abbia per un'anima. Cui queste sono le tre cose, Luca, che questo mi esclude. Il vuoto mi esclude, bene. Allora, no, perché tu a modo tuo, anche se fai finta di non avercene tutte queste cose, un po' ce l'hai. Allora, la Pascale ha dato del troglodita a Salvini. Ha dato del troglodita a Salvini, la sì, Pascale, per la Pascale. Fortuna, meno male sta pigliando un po' con la Pascale. Ma fa bene a dare del troglodita a Salvini. Ma dipende per quale motivo? No, ma in generale ha dato del troglodita a Salvini. Non posso darle torto, ma tu vuoi veramente che io mi... Io non ho detto troglodita, non mi far usare termini. Hai detto, che non posso darle torto. Non vorrei essere noiosa né banale. Io trovo, l'ho già non detto. Non posso darle torto, benissimo. Che non si può far votare. La stessa cosa fa Trump in America. Sì. Hanno capito che c'è un vuoto pneumatico nell'elettorato. Cioè la gente vota sulla disperazione. Vabbè, abbiamo capito, ma come... Momento, fammi finire. Ma non t'ho chiesto della Pascale! La gente vota sulla disperazione, la gente vota sul nulla. Buonasera, ciao, t'ho salutato. Ciao, ma ciao, ciao. Salute. Sai che ciao, buonasera, sì, sono molto cafone stasera. Si è arrabbiata al Bona, perché si è arrabbiata? Mi sono rotto i coglioni, ciao. David Brescia, vai! Ciao ragazzi. Dimmi. Niente, sono uno di quelli che si deve far analizzare perché a me piace Trump. Tutta la mia famiglia vive in America e parte vota Trump. Vabbè, ecco, bravo. Hai ragione. Beh, fate analizzare perché voti Trump. Un orrore. Ma che orrore, ragazzi, la democrazia. Ma che democrazia? La democrazia produce orrori anche. Sì, e questo democrazia è un produce orrore. Chi vota Trump è un orrore, ma non dite cazzate, ma dai, su. Per quel ma che è lo, dici, stesso che, lo stesso che dicevano di Reagan prima. Chi vota Reagan è un orrore, no, la stessa cosa. Era già diverso. Ci sono milioni di americani che hanno votato per Trump e certamente non sono un orrore. È gente che la pensa in un certo modo, se che vota Trump per certi motivi, pensiero, ma non dire strozzate, dai, su, l'orrore fa paura, Trump, perché beh, certo, è se l'America, uno si riconosce dai. In quel modo di dire le cose, in quel pensiero, ma dai, fa su, mamma mia, che razzismo, poi dicono gli altri, dai, David Brescia, dai, forza, dimmi. Ma puoi paragonare Salvini con Trump è anche una bestemmia, secondo ma dai, me. Ma di che stiamo parlando? Non c'è un razzismo da parte di una supponenza, un'arroganza, che è spavento, sì, razzismo nei razzismo, confronti di chi non la pensa come voi, un razzismo profondo. Non c'entra niente il razzismo, no. è un'altra parola, un altro significato, vai. Non vuol dire. Ma che io sto dicendo, uno può pensare anche diversamente da Trump, ma non c'entra razzismo. O da chiunque, sì. Pensare che quelli che votano Trump o Salvini, ma comunque stiamo parlando di Trump, sono dei minorati o dei minorati, no, è gente che però se si riconosce in quel pensiero è agghiacciante, è fa paura. Gente agghiacciante che fa paura. Chi vota Trump è un coglione praticamente. Chi vota no, Trump coglione, è praticamente un coglione. No, dillo, vai, è un coglione. Lo pensi? Chi vota Trump è un coglione, perché non lo devi è dire? Gente agghiacciante. Perché non lo devi dire se lo pensi? È gente agghiacciante. Chi vota non, Trump è agghiacciante. Non dico che è un coglione. Oh, tu che sei andato, milioni di americani che sono andati a votare le primarie per Trump è gente agghiacciante. Sì, quella parte vabbè, di America, quella parte se non di è America razzismo questo. Quella parte di America profonda è la stessa America che ha fatto. C'è un disprezzo nei confronti degli altri, che è tremendo. È la stessa America del Missouri, delle ragioni dell'odio. Sì, è la stessa America. Sì, certo. Beh, c'è anche quella parte di America lì, sicuramente. Non dire cazzate. Anche in America c'è il razzismo, non è esente però, l'America. Sei in confusione, Parenzo, però vabbè, fa niente. Ascolta, niente, praticamente volevo raccontarvi questa cosa qua a proposito animalisti e roba varia. Niente, io sono fuori per lavoro e sono dentro questa casa che mi è entrato un topo, mi è entrato in questi giorni, no? E niente, io ho un po'... è la prima volta che mi capita, c'è uno dei collaboratori che mi ha dato una mano e abbiamo messo delle trappole e stamattina è caduto in quella trappola. Abbiamo preso un secchio con l'acqua e l'abbiamo affogato e ci ho un po' goduto, diciamo. Ma certo che hai goduto, hai trovato un topo in casa, lo hai affogato. Poteva buttarlo fuori e basta. Ma lo ha affogato, ma scusa, ma ragazzi, ma bisogna avere pietà dei topi? Ma no, poteva buttarlo fuori senza vederlo affogare. Ma buttarlo fuori così, con la scopa. Esci, caro topo, puoi uscire per favore? No, lo una volta che l'aveva catturato, mi pare, nella trappola. E poi l'ha voluto ammazzare, come l'hai ammazzato? Lo poteva buttare fuori? Non poteva lasciarlo fuori perché qua siamo in un posto turistico, non è che prendi un topo e lo lasci in giro. Lo buttavi in un cassetto delle immondizie, lo buttavi da qualche parte, insomma. Io ho goduto affogandolo, va bene. Va bene, Alessio, ho Roma, vai. Bene. Grande, Davide, hai fatto benissimo. Alessio, vai. Cruciani? Dimmi. Buongiorno, buonasera. Io avevo chiamato in reazione praticamente a quello che avevi detto prima riguardanti i convertiti all'Islam. Sì, dimmi. Io sono un cittadino, sono italiano, sono nato a Roma, ho 42 anni e sono convertito all'Islam da 20 anni. Sì. Ma io vorrei capire un attimo innanzitutto una cosa. Tu prima ti sei inalberato perché Parenzo, perché Davide praticamente aveva detto... La questione di Trump che non rispetta le elezioni. No, ma è una cosa diversa. Io so dove devo arrivare, adesso devo chiudere purtroppo, ma domani ti richiamo. Una cosa è il voto, una cosa è aderire da italiano, uno che culturalmente è nato qui, all'Islam. Secondo me da bagati mentali, magari hai avuto un trauma nella tua vita, Alessio, non lo so. A domani. Adesso, per colpa della Zanzara, ascolto solo Cruciani e Parenzo. Parenzo e Cruciani. Che schifo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.